Ciao a tutti, io mi chiamo Giulia e sono un'attrice e anche un'appassionata lettrice e il libro che ho pensato di condividere con voi, con chi vorrà ascoltare, è un romanzo di un'autrice cubana che si chiama Soledad Cruz Guerra, purtroppo poco tradotta in Italia, anzi quasi per nulla direi. E infatti il motivo per cui ho pensato di leggervi questo è perché non si trova più. È un romanzo che è stato pubblicato qui negli anni 90, però insomma è fuori catalogo da tanto tempo, quindi non c'è tanta più occasione di leggerlo se non perché uno ce l'ha già o lo trova all'usato o forse in biblioteca, non lo so. E quindi pensavo che si poteva cogliere questa occasione di condivisione di letture, di leggere qualcosa che è più difficile da trovare in tempi normali. È un romanzo che io consiglierei dagli 11 anni in su, ma è bello anche per gli adulti, ed è la storia di una ragazzetta, ragazzina, cominciata da quando è piccola, a Cuba tra il 59 e il 69, quindi proprio a cavallo del periodo della rivoluzione. E niente, a portarlo in Italia è stata Bianca Pizzorno, che l'ha anche tradotto, e lei nell'introduzione racconta tutte le peripezie attraverso cui si è innamorata di questo libro, trovandolo a una bancarella dell'usato, e ha fatto di tutto per portarlo qui, e finiva questa introduzione dicendo: spero vi piaccia quanto è piaciuto a me, e quindi io ora vi dico la stessa cosa e vi dedico questa prima puntata. Preludio. Arrivò in un disegno, una macchia di colore tutta soffusa d'azzurro viola, che non si riusciva a capire se riflettesse le profondità marine o uno di quei crepuscoli che si tingono di viola cupo nell'ultimo istante prima della scomparsa del sole. Aveva il corpo arcuato per il salto e sul muso una strana espressione affettuosa che molti anni dopo si definì come una certa vocazione alla tristezza, sebbene nei suoi occhietti brillanti aleggiasse l'allegria. Al suo apparire, la zucca dei miei giochi si trasformò in un cocchio trainato da cavalli, anche se non conoscevo ancora la storia di Cenerentola. Tempo primo, anni 1. I nuovi arrivi e gli addii erano cominciati all'osteria alla pancia piena. Entrava e usciva gente in continuazione. Mamma scuoteva in alto le tovaglie sgualcite, le faceva volare nel cortile. I passeri arrivavano a stormi. E le tovaglie planavano, posavano di nuovo i loro quadretti sui tavoli, e nel momento in cui lei cominciava a sbuffare uff e a lamentarsi «qua non si finisce mai», entrava l'uomo dei libri e dell'odore di pesce. «In riva al mare dovrebbe stare questa bambina, a prendere sole e sale, o in groppa a un delfino che è più veloce dei cavalli. Se questa bambina si perde, cercatela nel mare, me la porterò laggiù, senza zucca salvagente, e vedrete che non andrà a fondo». Mentre diceva così, il cigolio delle sue scarpe attraversava proprio nel mezzo lo stanzone dei tavoli e delle tovaglie a quadretti, e mamma pronunciava immediatamente la parola d'ordine: «Pesce fritto, Tarraia? Pesce fritto, Zoila!» Il gatto Ciccio gli andava incontro sulla porta dell'osteria, e mentre lui mangiava gli restava incollato alle gambe. Non elemosinava a bocconcini, se ne stava zitto e fermo respirando con delizia. «Basta, non ne posso più di questa puzza di pesce!» diceva Amelia. Usciva in gran fretta dalla cucina e accendeva il ventilatore appeso al soffitto perché il vortice creato dal movimento delle pale ripulisse l'aria. Bruno si alzava dalla poltrona a dondolo e, continuando a dondolarsi sulle gambe, diceva alla moglie in tono conciliante: «Amelia, Amelia, un giorno o l'altro finirà che per accorgersene, un giorno o l'altro finirà per accorgersene, così perderemo un cliente assiduo e ben educato». Amelia si spazientiva ancora di più. Sfregandosi le mani sul grembiule rispondeva con parole spezzate dall'ira: «E se non se ne va lui per primo, noi perderemo tutti gli altri clienti e persino Ciccio, come se non lo avessi già visto che tentava di andargli dietro». «Da quando in qua i gatti vanno dietro alle persone, Amelia?» «Alle persone, no. Però un uomo cui mancano solo le squame per essere un pesce, non mi meraviglierei che lo seguisse, vero Zoila?» «È una persona per bene, Amelia. All'odore non ci si bada più appena comincia a parlare». Sì, tu lo dici perché racconta a Puppi tutte quelle storie strane. Solo lei può apprezzarli, quei racconti di bussole impazzite, di squali e delfini che salvano la gente che sta annegando. Senti, perfino nelle fiabe quest'uomo ci infila i pesci. Cappuccetto Rosso non attraversava il bosco ma il mare. E non fu mangiata da un lupo ma da uno squalo. E non fu un cacciatore a salvarla ma un delfino. Quando ti dico che gli mancano solo le squame per essere un pesce... E ancora una volta risuonavano gli argomenti dell'accusa e le arringhe della difesa. Però... All'ingresso di Tarraia, la sala da pranzo si riempiva di allegria, come se gli azzurri marini aleggiassero la densa atmosfera del mezzogiorno con miriadi di pesci che nuotavano lenti e tranquilli davanti ai miei occhi, man mano che lui li elencava. Un mezzogiorno che tutti si lamentavano a gran voce del caldo, Ciccio, di vedetta sulla porta, tornò indietro solo, senza odore di pesce, miagolando lamentoso. Solo e senza odore di pesce tornò a uscire e rientrò miagolando ancora più forte. I miagoli continuarono, un mezzogiorno dopo l'altro. Amelia gongolava. «L'ambiente si è ripulito, gente! È finita quella dannata puzza di pesce!» Bruno, spazientito, andava a mettersi sulla porta dell'osteria e cercava senza risultato di far tacere il gatto Ciccio. «Ma vuoi stare zitto? Smettila con questi miagoli! Oppure vallo a cercare! Di certo si è accorto delle stupidaggini di Amelia e se n'è andato in un'altra osteria!» Seduta sopra la mia zucca, anch'io mi lamentavo a gran voce per l'assente, con grande indignazione di Amelia. «Mamma, mamma, Taia, Taia! Che cosa ti ho detto, Zoila? Quell'uomo, il demonio in persona. Guarda se adesso anche Puppi si doveva mettere a chiamarlo, che il diavolo se lo porti!» Nell'osteria la gente continuava a entrare e a uscire. I quadretti delle tovaglie si alzavano in volo nel cortile, i passeri arrivavano a stormi. Però nella soffocante atmosfera del mezzogiorno qualcosa era cambiato. I miagolii di Ciccio non cessarono, ma si fecero più dolci. E nella sala da pranzo, il colore del mare, che era arrivato con Tarraia, si fece più pallido. Bruno trovò un nome per ciò che stava accadendo in quel mezzogiorno senza il pescatore. «È la nostalgia», dichiarò convinto, parlando a voce bassa, come a se stesso. Un giorno mamma aveva appena finito i suoi «Uff, uff, qua non si finisce mai!» Quando all'improvviso i miagolii di Ciccio tacquero, e l'aria si riempì di odore di pesce. Mamma schizzò come una freccia fuori dalla cucina. «Tarraia! Avete perduto la strada!» «È il mare, Zoila, il mare. Ti fa innamorare come una donna gelosa non vuole più lasciarti andare via. Lo sa che sono suo, però non gli basta.» Anni 2. «Pesce fritto, Tarraia?» «Pesce fritto, Zoila», disse camminando fino al cortile. «E tu, pesciolino, sempre a giocare con la tua zucca? Sempre a farla rotolare di qua e di là. Vediamo se impari come sono gli animali che vivono nel mare. Così dopo potrai nuotarci in mezzo. Guardali da vicino, senza rompere le pagine però.» E cominciò a sfogliare il libro del mare dei pesci. «Guardali, che anch'io li ho guardati da bambino e non li ho mai dimenticati. Dopo, quando li incontrerai nel mare, potrai salutarli come vecchie conoscenze.» Parlava e parlava. Ciccio rimaneva al suo fianco, tutto moine, gli si sfregava contro i pantaloni aspettando il suo turno. «E li farò vedere anche a te, Ciccio, perché tu sappia quali puoi mangiare e quali no, anche se la tua padrona si offende. Dovrai venire con me al mare, è lì che si conoscono meglio.» Amelia si strofinava le mani sul grembiule e appena uscito Tarraia apriva le dighe della sua indignazione. «Ma guarda questo concentrato di puzza! Vuole portarsi via Ciccio, che è come un figlio in questa casa! Puppi, tu vuoi che Ciccio se ne vada?» Non era una buona alleata per Amelia. Ogni volta che lo sentivo nominare cominciavo a battere le mani. «Taia! Taia!» Amelia tormentava ancora di più il grembiule con le dita. «Ma cosa dici tu che ormai puzzi di pesce come lui? Io non so come fa Zoila a permetterti di sbavare e smaniare in questo modo per quel disgraziato.» «Io non le permetto niente», rispondeva mamma tra un piatto da lavare e l'altro. «È lui che si è conquistata la sua amicizia. Ma non hai visto con quanta pazienza le mostra gli animali di questo libro? Ma quante stupidaggini! Se poi alla bambina le si attacca quel bel puzzo di pesce, non lamentarti!» Anche Ciccio era contento. Non si allontanava mai dal libro e ascoltava attento le spiegazioni di Tarraia, molto interessato a imparare a distinguere i pesci. Ce n'erano di tutte le forme e colori, chi somigliava a un martello, chi a una spada, chi a un toro. Però il disegno su cui Tarraia si soffermava di più era quello con la macchia di colore azzurro-viola. I delfini non attaccano mai l'uomo e se lo vedono in pericolo lo aiutano. Hanno un loro modo speciale di parlare che somiglia a un canto e sono giocherelloni, tutto il giorno a saltare nell'acqua. Se gli tendi la mano te la accarezzano, se li tratti bene, ma fu interrotto dalla voce di un nuovo arrivato. Meglio ancora gli uccelli che volano nel cielo. Questa è la frase che si riuscì a sentire tra uno starnuto e l'altro. I delfini sono gli uccelli del mare, amico, e hanno il loro proprio cielo, rispose Tarraia quasi risentito. Scusate, preferisco il cielo, signore, e gli uccelli che ne sono i re. Io ho volato in mezzo a loro, fino a che il gabbiano è caduto e ho perduto metà della mia dotazione ottica. Il gabbiano è un uccello marino, amico, e però è un uccello, signore. Cosa posso servirle? Chiese mamma, da dietro il bancone. Il piatto che costa di meno, signora. Sono tempi difficili per un uomo che non sa far altro che volare ed è rimasto senza il suo gabbiano. Scusate. Da quella volta le conversazioni resero più lunghi mezzogiorno. Per prima entrava la nuova voce e prima ancora della voce gli starnuti. Proprio nel momento in cui cominciavano gli uff, qua non si finisce mai di mamma, Ciccio usciva sulla porta come una freccia e l'odore di pesce inondava l'osteria. Gli ecci e gli scusate raddoppiavano. Tarraia faceva sempre la stessa domanda. Ancora qui? Se lo avessi saputo avrei aspettato ad entrare. Ma neanche per sogno, signore, il mio naso deve abituarsi. Sono disposto a fare questo sacrificio per conversare un poco. E lei sì che sa conversare, signore. Grazie, amico, però i suoi starnuti mi fanno sentire in colpa. Della mia allergia do la colpa alla vita, non al suo odore di pesce. Gli ecci e le storie cessavano solo quando mamma, finito di mettere in ordine, usciva dalla cucina. A quel punto Amelia incominciava la sua sessione di lamenti. Vorrei proprio sapere cos'ha questa osteria per trasformarsi in un'esposizione di mostri rari. Te l'ho detto, Bruno. Quando l'hai voluta chiamare alla pancia piena, che avrebbe attirato tutti i morti di fame, quelli con la pancia vuota. Che cosa diavolo ci fa un aviatore qui a Florida? Aeroporto non ce n'è. Gli aeroplani passano così lontani che neppure ti accorgi della loro esistenza. Bruno sorrideva, dondolandosi sulla poltrona. Siamo fortunati, Amelia. Un altro cliente fisso. Lo sai che a malapena riusciamo a pagare lo stipendio di Zoila? Lascia che vengano. Lo sai che dai clienti occasionali si guadagna poco. Aveva voglia Amelia di strusciarsi le mani sul grembiule. Non riusciva con questo a impedire le lunghe conversazioni fra Tarraia e l'aviatore, che però un giorno, proprio nel momento in cui il mezzogiorno cominciava a non essere più mezzogiorno e a cedere il passo alla sera, subirono un'interruzione. Si sentì il galoppo di un cavallo e subito dopo: «C'è qualcosa da mangiare per un cavaliere stanco?» «Sempre c'è da mangiare qui, per chi ha la pancia vuota», rispose Bruno. «E non ha visto l'insegna, dice ben chiaro, osteria alla pancia piena». Che non so leggere, compare, però il buon odore si sente fin da lontano. Per una pancia vuota l'odore vale più di una scritta». «E dunque entri a riempirla», invitò Bruno allegro. «In cucina», Amelia bisbigliò. «Questo è un altro di quelli, mi dia il piatto che costa di meno». Dal salone le fu risposto: «Sì, comare, proprio il piatto che costa di meno. È il prezzo che si addice al pranzo di noi poveri. Buon... mezzogiorno, scusate. E di cosa, compare? Gli starnuti liberano i polmoni da tutte le porcherie. Scusate, di porcherie ormai non ne ho più da nessuna parte, soprattutto da quando pranzo con Tarraia. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro». Tarraia entrò e aveva mescolato all'odore di pesce qualcosa che Ciccio annusò perplesso. In cucina Amelia scoppiò a ridere, proprio spiritoso. «Adesso si mette il profumo, però la puzza gli viene fuori lo stesso da tutte le parti. Secondo me ha qualche amorazzo con una di quelle di via Concezione. Guarda se devono permettere che quelle donnacce vivano proprio nella strada intitolata alla Vergine Purissima. E che cosa pretendi, Amelia, che Tarraia ci vada anche a letto col mare? E taci, Zoila! Che puppi ti può sentire? Sta attenta che quel demonio li ha stregati, tua figlia e il mio gatto». Fra le tovaglie a quadretti, cui bottiglie, piatti, bicchieri e vassoi impedivano di sollevarsi in volo, adesso si conversava a lungo di delfini, uccelli e cavalli. «Il cavallo, compari, il cavallo è l'animale più utile, con la sella o senza. Se voi sapete affidarvi a lui, il cavallo vi porta fino alla fine del mondo. I delfini saranno molto graziosi, come dice il compare, però questo non lo fanno. Graziosi, perché credo che non si possano neppure mangiare, no? Amico, i delfini sono i cavalli del mare e in groppa a loro si può arrivare fino alla fine del mondo. Scusate, datemi una barca invece. Su una barca si arriva dappertutto, se ci sono strade d'acqua, signore, però un delfino. Una barca ti lascia nei guai, amico, e anche un aeroplano, e anche un cavallo se si imbizzarrisce. Però, quando hai preso una strada senza ritorno, un delfino può spingerti fino alla riva e farti ritrovare la rotta». Cadde un profondo silenzio. Un silenzio che spaventò Ciccio, spingendolo a miagolare senza un'apparente ragione. Un silenzio che Amelia ruppe all'improvviso. «Puppi! Puppi! Cosa fai lì vicino al tavolo ad ascoltare cose che non capisci? Zoila, ma l'hai vista?» Tarraia le rispose. Ma lasci stare la bambina. L'odore di pesce non le dà fastidio e con questi amici non impara altro che cose interessanti. Pesciolino, vero che tu credi come me nei delfini? Taia, fini, taia, scusate. È evidente, lo capisci che siamo tuoi amici. Bene, però adesso torna al tuo angolino e lo troverai trasformato in mare. Guarda il tuo libro degli animali marini, hanno molte cose da raccontarti, soprattutto i delfini, che sono tra i più sapienti. All'osteria non veniva quasi più nessuno, però, puntualissimi, come il sole arrivava a metà del cielo, i tre commensali entravano a chiedere il menù più a buon mercato e a raccontare le loro storie. Senza cavallo, compare, nella vita non ci sarebbe mai festa. E ci scusate, e questo lo dice lei, signore, perché non ne sa niente, non è mai andato in volo tra le nuvole come gli uccelli. Senza volare, la vita non avrebbe cielo. Amici, se conoscete un delfino e ve lo fate amico, avrete sempre festa nel cielo. Cavalli, uccelli e delfini si incontravano nel disegno azzurro-viola e il delfino volava, cavalcava e spingeva gli uomini verso la riva. Però un giorno per noi non ci fu più osteria. Bruno, dispiaciuto, donnodandosi nella sua poltrona, disse: «Zoila, non ce la facciamo più a tenerti. Ho sentito dire che il dottor Morejon sta cercando una lavandaia, gli parlerò. Avrai un lavoro e un medico per la tua famiglia». Il patio era grande e pieno di fiori. Venne anche Ciccio. Quando Amelia si accorse che il gatto era sparito insieme a noi, volle trovare una spiegazione di suo gusto. «È logico! Puppi ha lo stesso odore di pesce di Tarraia, le è rimasto attaccato!» Ciccio mi seguiva per tutto il grande patio del dottor Morejon, che mamma riempiva di lenzuola bianche del suo «Uff, qua non si finisce mai!» Ciccio e il libro dei pesci erano i miei unici compagni, veloci. Veloci scorrevano le pagine e si fermavano su quel disegno azzurro-viola dove, col corpo arcuato per il salto e una strana espressione affettuosa, lui ci stava aspettando. Mamma ci vide, il gatto ed io, stesi sopra quella pagina e sospirò: «Ah, il delfino! Il delfino è un grande e dolce animale!» Bene, questa è la fine della prima puntata del primo capitolo e ci vediamo domani per la seconda. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti, qui sempre Giulia. Andiamo avanti col secondo capitolo di Delfin Delfinero di Soledad Cruz Guerra per portare un po' di mare azzurro-viola in questi giorni casalinghi. Tempo secondo, anni 11 e un po' anche 12. Chissà, magari sarei riuscita a parlare con lui una volta arrivati al campo di cotone. A scuola non riuscivo a decidermi. Se non mi avesse dato retta o mi avesse risposto male, tutto sarebbe andato a catafascio. Sarei arrivata, chissà, a tirargli i libri in testa come avevo fatto quella volta della caramella. Laggiù, invece, nella confusione che certamente avrebbe regnato all'accampamento, sarebbe stato più facile. Avrei potuto dirgli almeno: «Ho bisogno di parlarti». Nel breve tragitto da scuola a casa mi tormentavo il cervello con questo dilemma. E con quell'altro problema di riuscire a convincere mamma. E, come sempre, anche se ormai non lo dicevo più a nessuno, ogni volta che non riuscivo a trovare la strada, invocavo il delfino. «Delfino, mio bel delfino, cavallo e uccello del mare, aiutami a convincere mamma che non si comporti come quella volta che fece il gioco dei maestri. Le dettero ragione. Sui treni passavano ragazzini della mia età in uniforme di alfabetizzatori. E lo stesso capitò con la raccolta del caffè. Era solo per i ragazzi della secondaria, Enrique però ci è andato. Continua a rinfacciarmelo. Non sei così brava, mi dice. Cosa hai fatto? Hai ancora il latte sulle labbra e vieni a scuola? Mi fa una rabbia. Anna Gloria, la direttrice, ha detto che è molto importante. Come? Proprio io che sono la capoclasse non ci vado? Però chi la convince, mamma? Se almeno potessi parlare con Enrique. Gli vengono sempre in mente delle idee straordinarie. Ah, oh, e delfinetto, tienimi a galla, spingimi, che io ho perso di vista la riva». E al delfino non mancava mai la risposta adeguata. E in questa grande tempesta bisogna salire a bordo del vascello più robusto. È Anna Gloria colei che regge la bussola e il timone. Non sia mai che la capitana dei delfini navighi sul mare in tempesta accompagnata dalla mamma, Bisogna farle un buon abbordaggio a Zoila. Preparati all'insurrezione. Chiederemo aiuto ai gabbiani e ai cavalli, come facevamo nell'osteria alla pancia piena. Mamma mi stava aspettando davanti alla porta col suo metro da sarta al collo. Tu stai pensando a Tarraia. Ti esce il mare dagli occhi e sento odore di pesce. Oh, sempre lo indovinava. Credi che non abbia altro a cui pensare? Uff, qua non si finisce mai. Come direbbe Amelia, ma guardala la bambina preoccupata per ragioni misteriose. Il fatto è che l'odore di pesce non ti ha mai abbandonata del tutto. A volte mi sembra che dalla porta stia per entrare Tarraia. E questi gatti che ti seguono dappertutto. Non è odore di pesce. Te l'ho detto mille volte. È odore di mare. E i gatti mi vengono dietro perché li tratto bene e gli do da mangiare. Non ero abbastanza convincente. Ah, tu hai qualcosa in quella testolina piena d'acqua salata. Quanto mi piacerebbe saperlo. Quando ti deciderai a parlare, le mie orecchie sono qua, pronte, che sono fatte per questo. E senza nemmeno una pausa, mamma passava alla fase incalzante degli ordini. Svelta, innaffia le piante dell'orto i crisantemi, se no addio Lola. Certe volte mamma mi ricordava Amelia, solo certe volte. Nel modo di parlare e per la paura che le facevano certe cose. Anche dalla sua macchina da cucire, il cui pedale azionava con foga, senza smettere un istante, controllava ogni cosa. Come se avesse spie ed emissari dappertutto. Spiritelli, forse, che le sussurravano dai muri e le dicevano persino che vestito mi stavo infilando di là in camera. Non uscire nel patio in calzoncini! Uffa, mamma, fa caldo! E poi, scusa, quando faccio educazione fisica? Quella è un'altra cosa. Sei a scuola, è una lezione. Nel patio è come stare per strada. Attraverso la staccionata si vede tutto. Non puoi stare così, a gambe nude, provocando gli uomini. Ormai sei cresciuta. Il patio era il mio rifugio marino. Tra i filari di insalata, lattughe e crisantemi c'era una profusione di conchiglie e di coralli regalatimi da tutti quelli che andavano in vacanza alla spiaggia. Sulla staccionata mi aspettavano tutti i gatti discendenti di Ciccio e a distanza di sicurezza dalle capacità divinatorie di mamma potevo parlare senza preoccupazione col mio delfino. Ah, gli uomini, delfino mio, sapessi, bisogna guardarsi da loro come dal demonio. Che se ti vedono un pezzettino di coscia è una provocazione. Attenta, devi metterti il reggiseno, la blusa, niente che ti segni le forme. E loro col petto al vento, senza paura di provocare o di essere mangiati. Sopporta il caldo, nasconditi da loro, dormi avvolta come una mummia in un camicione, come fa mamma mentre Jorge, felice, russa in mutande. Noi delfini non abbiamo di questi problemi. E neppure gli uccelli e i cavalli. Noi siamo vestiti sempre allo stesso modo, come te, quando arrivavi a fare il bagno al rio Lazzaro. Zoila ti gettava in acqua così com'eri, nuda, senza che dovessi preoccuparti di niente. In cortile mi sentivo più vicina a Enrique, da quella volta che si era offerto di aiutarmi senza che glielo chiedessi. Tornava dallo zuccherificio, dove aveva portato da mangiare al padre. «Vuoi che ti sistemi il cortile?» Chiedilo a mamma, sta aspettando che lo faccia Jorge, ma Jorge non arriva e fra un po' i sassi e gli sterpi diventeranno una montagna. Perché lo chiami Jorge, tuo padre? Si chiama così. Però è tuo padre, no? Sì, però mi sono abituata a chiamarlo così con una persona. Col tuo ragazzo? La domanda mi dette fastidio. Non ho mai avuto un ragazzo, né lo avrò fino a che non sarò grande. Si mise a ridere, come quella volta davanti a Merceditas. «Ehi, ragazzina, ma pensi di continuare a crescere?» Andò a parlare con mamma. Si preparò al lavoro con una zappa. S'archiò, zappò e quando la terra fu a posto preparò le aiuole. Più tardi venne a seminare con me gli ortaggi. «I fiori li semini tu, sono cose da donna, Mariuccina!» Occhi belli, non riusciva a credere a quello che vedevano i suoi occhi verdi. Il ragazzo più in vista di tutta la scuola, Sierra Maestra! Enrique, che zappa il tuo cortile! Lo hai conquistato, Maria, lo hai conquistato! Quanto mi arrabbiai! Oh, accidenti, occhi belli, non fare come gli altri! Enrique vuole sdebitarsi per quella volta del ripasso di storia. Era stato allora, col fatto della storia, che era cominciata quell'altra storia. Però Enrique si era dimenticato tutto dall'ultima riunione della classe. Non mi dava la possibilità di parlargli. Dalla porta della cucina mamma continuava a sbraitare. «Cosa stai combinando? Ti fai la doccia con l'innaffiatoio? Ci manca che ti prenda un raffreddore!» «È proprio come dice Amelia. Quando hai la testa piena di Tarraia cominci a dare i numeri e i gatti ti vengono dietro. Guarda lì, sulla staccionata, ma non senti come miagolano?» Dai, dagli qualcosa da mangiare e mandali via. O almeno che stiano zitti. E se non la smettono, gettagli addosso dell'acqua. Ero stata sorpresa un'altra volta fuori dal seminato. Se non riuscivo a parlare in fretta con Enrique, avrebbero ricominciato con la minaccia di portarmi dallo psichiatra. Avrebbero dato la colpa a Tarraia, al delfino, e mamma avrebbe raccontato a Tita per la millesima volta tutta la storia dell'osteria alla pancia piena. Domani parlerò con Anna Gloria, mio bel delfino. Non voglio ingannare Zoila, ma devo parlare con Enrique. Non resisto più a vederlo passarmi vicino come se non esistessi. Sono io che ho ragione. Com'è che non arriva a capirlo? Come ha potuto dimenticare la mia caduta nel campo della pelota? Non si ricorda più dei bigliettini che mi mandava prima e di quelli che mi mandava dopo? Com'è che la stessa persona può darci tanta gioia e più tardi tanto dolore? Il delfino non mi rispose, come se si fosse accorto di mamma che proprio nel momento in cui le lacrime già cominciavano a farmi solletico al naso, era uscita di casa con una ciabatta in mano e si stava avvicinando. Ecci, scusa, non dirmi che hai intenzione di picchiarmi come quando ero piccola. Un bastone dovrei spezzarti sulla schiena. Quando io avevo 12 anni, mia madre non doveva mai ripetermi due volte la stessa cosa. Cambiò tono, scuotendo la testa da una parte all'altra. È che da un lato mi sembra che tu sia ancora una bambinetta e dall'altro comincio ad avere paura perché stai diventando una donna. La paura. Le paure erano apparse qualche settimana prima. Appoggiata con i gomiti alla staccionata che divideva il nostro patio da quello di Tita, mamma aveva osservato, sebbene non avessi ancora compiuto i 12 anni. Le nostre ragazzine stanno diventando donne, Tita. Bisogna tenerle d'occhio. Isela fisicamente è ancora piccola, Zoila. Maria invece è già grande per la sua età. Ha già scannato il porco? E che porco avrei dovuto scannare? Me lo chiesi per giorni e giorni senza azzardarmi a domandare spiegazioni. Sarebbe stato come confessare che stavo ascoltando i loro discorsi. Questo mi sarebbe costato come minimo di non andare domenica alla sfilata nel parco. Però tornarono a parlarne affacciate alla staccionata del patio. Aveva a che fare col diventare donna. Quando Maria ha cominciato a mettersi il reggiseno, glielo ho spiegato, perché non si spaventasse, come è capitato a me. Figurati, Tita, mi misi a correre strillando fuori del gabinetto e tutti quanti a casa se ne accorsero. E io non so come spiegarglielo a Isela. A me mi ha aiutato a lavorare per il dottor Morejon. Quel vecchio sapeva spiegare tutto in un modo così semplice, e così io l'ho spiegato a Maria. Però mi sa che non gliene è importato molto, è così strana quella ragazzina. A me sembra normale, Zoila, un po' fissata con tutte quelle storie che racconta Isela, del mare, di Tarraia, dei delfini. Ma per il resto è proprio uguale alle altre. Mamma sospirava ogni volta che sentiva nominare quell'argomento. È colpa mia, Tita. Quante volte abbiamo ripetuto i racconti di Tarraia e dell'osteria alla pancia piena. È che quell'uomo parlava in un modo così speciale, aveva qualcosa di speciale. Amelia mi aveva messo in guardia, E se io credessi a queste storie, penserei che il suo spirito è rimasto in qualche modo legato a Maria. Ma va, Zoila, secondo me tutto si sistemerebbe portandola al mare. Il fatto è che lei ha questa ossessione del mare, voi non vi decidete di portarcela. E comunque, alla peggio, quando scannerà il porco, tutto questo le passerà. Adesso è ancora per metà bambina e per l'altra metà donna. Me la ricordavo perfettamente, la conversazione avvenuta il giorno che avevo inaugurato il mio primo reggiseno. Mamma aveva detto che ormai era una donnina e che i seni suscitavano l'interesse degli uomini e che, chiaro, dovevo stare attenta. E che fra poco, a 12 anni, sarebbero arrivate le regole. Un sangue che ti usciva da lì, senza che ci fosse una ferita. Doleva, ma non più che partorire. E tutte le donne partorivano. E a quel punto dovevo stare ancora più attenta con gli uomini perché se abusano di te dopo che hai le tue regole, resti incinta e questo non deve capitare se non dopo il matrimonio. Erano passati 2 mesi dall'inizio della scuola, 1 mese dal mio 12° compleanno. Era la sera in cui facevamo educazione fisica. 1, 2, respirate. 1, 2, respirate. E all'improvviso un doloretto alla pancia. Poi quel doloretto aveva cominciato ad aumentare e a diminuire, come se non fosse proprio sicuro di volermi fare male. Quando la sera andai in bagno a lavarmi, me ne ero già dimenticata. Fino al momento in cui mi resi conto che mi scendeva fra le gambe qualcosa di liquido e non stavo facendo la pipì. Non mi spaventai, ma cominciai a piangere. Ma era terribile dover stare in guardia dagli uomini proprio adesso che Enrique aveva cominciato a suonare il campanello della sua bicicletta ogni volta che passava davanti a casa mia quando andava a portare il pranzo a suo padre allo zuccherificio. «Mamma, mamma, vieni, corri! Cosa c'è, bambina? Vuoi che mi si brucino le banane? Di certo ti sarai dimenticata l'asciugamano!» Con la voce arrochita le dissi «Sto sanguinando!» In un secondo fu dentro il bagno con dei pannolini bianchi. Come se avesse aspettato quel momento e tenesse i pannolini a portata di mano. Ebbi l'impressione che stesse per mettersi a ridere. Invece le spuntarono le lacrime. E piangemmo, tutte e due, in silenzio, come se fosse arrivato un cataclisma. Non era tanto per il dolore, eh. Il fastidio maggiore era abituarsi a camminare con quell'ingombro tra le gambe. Il giorno dopo entrai a scuola a testa bassa, piena di vergogna. Temevo che tutti se ne sarebbero accorti. Mi nascondevo, soprattutto dai maschi, e non sapevo come camminare. Durante il primo intervallo rimasi seduta nel banco, convinta che se camminavo il pannolino mi sarebbe caduto e allora non avrei più avuto il coraggio di tornare a scuola. Enrique si meravigliò. «Che cosa ti succede?» «Niente, è che sono caduta e mi fa male una gamba». Maria Zayas invece si è reso conto della verità. Mi mise le mani, che aveva sempre sudate, sopra le spalle e mi consolò. «A poco ti abituerai, Maria Candela». Però non fare quella faccia e smettila di camminare in quel modo strano, altrimenti metteranno la notizia sul giornale murale. Durante la ricreazione, Enrique rimase al mio fianco. Fu così affettuoso quel giorno e nei giorni che seguirono, al tempo del ripasso di storia, al tempo degli allenamenti del gioco della pelota, al tempo della mia gamba ingessata e del bacio. Mentre mi lavavo, quel giorno in cui Ana Gloria ci aveva chiesto di essere generosi e di collaborare, sentii il bisogno ancora una volta di chiedere aiuto al delfino, che ormai però non sempre rispondeva alle mie domande. Ma come si può essere oggi in un modo e domani diversi? E tutto per una stupidaggine, proprio una stupidaggine, no? Enrique si è comportato come un bambino della scuola materna. Io dovevo fare il mio dovere. Chissà perché il dovere deve costare tanto e procurare tanti fastidi. Mamma dice che il mio dovere è lavare i piatti. Anna Maria dice che il mio dovere è prendere buoni voti in matematica, anche se la matematica non mi piace. Jorge dice che il mio dovere è comportarmi bene. Comportarsi bene significa sempre fare le cose più noiose. Le più divertenti sono piene di pericoli, oppure non sono il tuo dovere. Se faccio il mio dovere, Enrique si arrabbia. E non è mio dovere farlo contento. Dalla macchia di colore azzurro-viola che in qualche parte dentro di me era il regno del delfino, uscì la voce di Tarraia. Nel mare nessuno attacca briga con i delfini. E quando gli uomini assomigliavano agli dèi, i delfini erano sacri perché si aveva rispetto della missione di portare allegria agli altri. Però fuori dal mare le cose sono diverse. Saresti stata contenta se non avessi detto la verità? Enrique doveva capirlo, così come aveva capito quel ripasso di storia. Però dovevo navigare senza scorta in quel mare tempestoso. Questo era il suggerimento del mio bel delfino. E finiamo qui la seconda parte e ci vediamo presto per la terza. Ciao a tutti, a presto. Tempo terzo. Anni 4/5. Quante volte siamo andate su e giù dal nostro appartamento alla casa del dottor Morejon? Quante volte abbiamo attraversato il paese da un'estremità all'altra col gatto Ciccio che ci seguiva? Io portavo sotto il braccio il mio delfino. Come il dottor Morejon, il parroco Tapanes trovava sempre il tempo per raccontarmi una storia, anche se aveva solo pochi minuti a disposizione. Mamma rincasava e Zac si sfilava le scarpe, e appena le scarpe cadevano alla distanza giusta per essere recuperata l'indomani, si sentiva il sussurro della voce del padre. Un padre che non era sposato e non aveva figli. «Zoila, è pronto il caffè?» «Lo so che torna dal lavoro morta di stanchezza, però un buon caffè ristora e restituisce l'allegria». Mamma sorrideva. «Sì, padre, aspetti un attimo che mi tolgo questa bardatura». Si toglieva il vestito buono, prendeva la vestaglia dal chiodo, se la infilava in fretta, apriva la porta e padre Tapanes dava la stura ai suoi rimbrotti. Zoila, ma che cos'è questa vanità? Una donna che rincasa stanca si toglie la bardatura, come dice lei, e si mette un vestito da casa comodo, senza cintura stretta. Gliel'ho detto già molte volte. Lasci il corpo libero come Dio lo ha fatto. Dalla casa del dottore a qui lei ha attraversato mezza Florida. E se il signore l'ha fatta alta, perché desidera farsi ancora più alta con i tacchi? Lavando il colino del caffè, lei scuoteva la testa e rispondeva sempre allo stesso modo. Mi sono abituata così da giovane, non posso farne a meno. Lui ribatteva. Non è vero. Il fatto è che lei è vanitosa, eh? Una donna così coraggiosa e seria, vanitosa. Bisogna proprio dire che il signore progetta in modo strano le sue creature. E lei rispondeva. Gliel'ho detto mille volte, padre, con tutto il rispetto, che Dio è capriccioso. Consola, però è capriccioso. Bevuto il caffè, Tapanes prendeva congedo. Resti con Dio, Zoila. Però prima di andare mi occuperò della serva del signore più piccola. Era il mio turno di sentire la predica. Maria, bisogna abituarsi al sacrificio. Ormai sei cresciuta, sei una bambina grande e non devi farti portare in braccio da tua madre. Fai uno sforzo e cammina. Bisogna imparare da nostro signore Gesù Cristo, il figlio di Dio in terra. E perché ti impegni a farlo, ti racconterò la metà di una storia. Se domani fai la metà della strada a piedi, ti racconterò la fine. Racconti di mare? No, non sono di mare, ma se tu vuoi possono diventarlo in onore di Tarraia. Anche nel cielo ci sono cose molto carine, sai? Ci vivono i santi, che furono uomini molto buoni. Tarraia vive lassù? Non lo so, fagiolina mia. Appena sentiva il nome di Tarraia, Ciccio cominciava a miagolare. Tapanes, con grande meraviglia di mamma, se lo prendeva sulle ginocchia. Lei non ci vorrà credere, padre, ma Ciccio si comporta con lei allo stesso identico modo che con Tarraia, sebbene lei non abbia puzza di pesce. Beh, questo della puzza è un'invenzione di Amelia. Aveva odore di acqua salata, Bruno diceva odore di mare, e Bruno era l'unico nell'osteria che era andato fino al mare. Forse quell'uomo aveva vocazione per il sacerdozio. Su questo non posso pronunciarmi, padre. Lui parlava in un altro modo. Sembrava un poco fissato con i delfini, però in verità era una fissazione molto bella. Maria si sdilinquiva ad ascoltarlo. Non sembrava un uomo di scuola, però parlava come se fosse istruito. Chissà, magari sono un po' fissato anch'io con questa idea di voler aggiustare il mondo. Però guardi, Zoila, come va questo paese. La gente non vuol più sentir parlare di Dio. Mamma faceva un gesto di impazienza. È che i potenti hanno tirato Dio dalla loro parte e Dio non ha protestato. Tapanes alzava gli occhi al cielo, scandalizzato. Poi si affrettava. Su, che ti racconto la storia, Maria. Poi devo andarmene subito, che ho da fare. Tenendoci per mano, ci incamminavamo per il sentiero che portava alla casa, seguiti da Ciccio. C'era una volta una bambina molto sacrificata, ma per la sua umiltà Dio la premiò e da Cenerentola la trasformò in una principessa. Cenerentola era una santa, dolce e generosa, sopportava il martirio con pazienza e rassegnazione. Da quando il padre era morto, la matrigna e le sorellastre la maltrattavano. Ma nel momento in cui le sofferenze della bambina, lavori faticosi, maltrattamenti meritati, si fecero insopportabili, arrivò la mano di Dio e il resto te lo racconto domani, se cammini almeno per un pezzo di strada in modo che tua madre non si stanchi. Se ne andava il padre Tapanes con la sua sottana nera. Ciccio e io tornavamo a casa raccontandoci un'altra Cenerentola che ci piaceva di più e che il delfino ricordava. Cenerentola viveva felice in fondo al mare, fino a che al padre non saltò in mente di sposarsi con una cernia. La cernia aveva due cerniettine, noiose e antipatiche come lei. Cenerentola non diceva niente al padre per non rattristarlo, faceva le pulizie e abbelliva con alghe e coralli la casa di conchiglie dove abitavano. E continuò così, fino a che venne un delfino a cercarla e se la sposò. Costruirono una casa di coralli e vissero felici e contenti. Ma c'era ancora un'altra Cenerentola, quella che conosceva il dottor Morejon. Qualche volta il dottore veniva a pranzare in lavanderia e si sedeva con mamma, col gatto Ciccio e con me. Cenerentola si alimentava molto male, tanto che le si indebolì il cervello. Credeva che le zucche fossero carrozze e parlava con i passerotti. Siccome la matrigna e le sorellastre le facevano lavorare tanto, Cenerentola confuse la stanchezza con il poco appetito e diventò così debole che non poteva neppure uscire per strada. Quando fu annunciato il gran ballo, si sforzò di andare al palazzo e, chiaro, appena cominciò a ballare, svenne tra le braccia del principe. Costui era un ragazzo molto intelligente e subito si rese conto di qual era il problema. «È debolezza», disse. e ordinò che facessero una buona zuppa di piccione. Cenerentola se la mangiò e diventò più forte, le tornarono i colori in faccia e al principe sembrò così carina che decise di sposarsela. Dopo il racconto veniva la morale. Ascolta bene, Mariettina, persino per incontrare un principe bisogna alimentarsi bene, perciò non lasciare mai niente nel piatto. Zuppa di piccione, però, non riuscì più a mangiarne dopo che ebbe incontrato e amato Mezzina. Uno di questi giorni di racconti e dolciumi, dalla colombaia dell'avvocato Fernandez, vicino di casa del dottore, cadde un pulcino che già metteva le piume, con un'ala spezzata da una fionda. Morejón lo curò e chiese a mamma che lo riportasse indietro. Ciccio lo guardava e guardava, ma lo avevamo avvertito: «Sta attento, se gli fai del male ti riportiamo subito da Amelia». Non c'era modo migliore per tenere il gatto sotto controllo. Mantenne le distanze, però non fu contento quando il padrone disse che potevo tenermi la colomba. «Con quest'ala spezzata non potrà essere un buon piccione viaggiatore, e io li allevo per questo». Ciccio mi agolò infastidito e cominciò a girarmi intorno, fino a che si rese conto che non c'era niente da fare e si calmò. Portammo la colomba a casa e la mettemmo in una scatola vicino al focolare, perché stesse al caldo e si consolasse di aver perduto il nido e l'ala. Mamma scuoteva la testa sorridendo. «Se ci vedesse Amelia, direbbe che siamo impazziti. Quasi non ci stiamo noi in questa casa e d'ora in poi avremo anche un nuovo inquilino. Gli è capitata la stessa cosa che all'aviatore. Ti ricordi, Puppi? Ha perduto un occhio volando». Amelia non ci rivolse la parola fino a quando Ciccio se ne fu andato e non si accorse di quanto era successo fino al momento della riconciliazione, qualche tempo dopo. Nel frattempo il piccioncino passeggiava nei corridoi del casamento approfittando della generosità dei vicini. Qui un chicco di riso, lì un chicco di gran turco. Finì per diventare grande e forte e prese l'aspetto di una colomba adulta. Teneva sempre in esercizio l'unica ala sana, che diventò più grande di quanto normalmente non succede alle colombe, al punto che non la poteva tenere piegata di fianco al corpo. Così ci abituammo a quella colomba che camminava con la sua unica ala spiegata, come se fosse in procinto di spiccare il volo e non riuscisse a sollevarsi. Anche il gatto Ciccio ci si abituò. La guardava da lontano, trattenendosi, senza osare avvicinarsi, non so se per la minaccia di riportarlo a casa di Amelia, che dall'osteria aveva conservato solo l'insegna alla pancia piena, o perché quell'uccello gli sembrava molto strano. A dire il vero, c'era stato un ultimo momento di ribellione del gatto. Era stato il giorno in cui, mentre ce ne andavamo dalla casa del dottore, la colomba aveva tentato di seguirci. Ciccio le aveva sbarrato il passo, aggressivo, col pelo dritto. Ma lei non si era lasciata intimorire. Aveva sbattuto la sua unica ala sfidando il gatto. Mamma era scoppiata a ridere e siccome in quel periodo rideva raramente, io ne avevo approfittato per supplicarla. «Lascia che venga con noi, mammina! Tu sei matta, ce n'è abbastanza con Ciccio! E guarda quanto è buono questo dottore che non si è lamentato né per Ciccio né per la quantità di gatti che girano sempre attorno al cortile cercando di fare baldoria». Però, quando arrivammo al mandorlo che segnava il confine fra il sentiero e la strada, non fece niente per rimandare indietro la colomba. Ciccio si era messo di nuovo a miagolare lì sotto il mandorlo e mamma intervenne. «Dovrai prenderla in braccio, Maria Candela Frias, perché non finisca sotto una macchina e il gatto si tranquillizzi». Camminavamo e camminavamo, da via Quinta e Pon, dove il paese di Florida terminava verso il sud, fino alla grande casa del dottor Morejón, che secondo mamma era il limite nord del paese. Il medico non ci lasciava varcare il cancello del cortile senza salutarci. «Guarda, guarda, lo zoo di Mariettina aumenta, eh? Un gatto, una colomba e un delfino, dottore. Non dimentichi il delfino che mi ha regalato Tarraia». «Sì, tua madre me ne ha parlato. Però il delfino non esiste, sta solo nel libro». «Non è vero, non è vero. Lui sta con me e parliamo. Ciccio lo sa. Però lui non parla, il delfino sì». «Va bene, va bene. Il delfino se ne andrà quando avrai amici con cui giocare, quando andrai a scuola». Mamma perdeva la pazienza e come Amelia si strofinava le mani contro il grembiule. «Oh, è una pazzia, dottore. Gliel'ho detto e ridetto. Ma lei non vuole darmi soddisfazione». «Non si tratta di pazzia, Zoila. Le passerà nel modo che le ho spiegato». In quei giorni che trascorrevamo nel cortile del dottor Morejón, il delfino mi aiutava a indagare su dove fosse papà. Mamma lavava, Ciccio inseguiva le lucertole, Mezzina becchettava l'erba e il delfino ed io organizzavamo la fuga e la ricerca. È un mare che si chiama Lavana. Lo ha detto Zoila. È pieno di squali e di luci. Chissà, forse papà è rimasto abbagliato e uno squalo se lo ha mangiato. Potremmo andare a cercarlo, come fece Pinocchio con suo papà quando lo inghiottì il pesce cane. Però come ci arriviamo al mare dal paese? Dove saranno le navi e le barche? Tarraia non ha parlato di questo. Non ci ha spiegato come arrivare al mare né come fare una barca. E neppure Zoila è mai stata al mare. Però forse sa dove si fanno le barche. Mammina, qui a Florida ne fanno di barche? Rispose distrattamente mentre appendeva un lenzuolo sul filo da stendere. Che io sappia no, anche se vanno fino alla spiaggia. E il mare è molto lontano? Lontanissimo. Pensa che alla mia età non sono mai riuscita a vederlo. Beh, padre Tapanes dice che passetto dopo passetto si arrivò lontano. Perché non ci andiamo così? Ebbe un soprassalto. Bambina, cos'è questa storia della spiaggia e delle barche? Vuoi andare a cercare Tarraia? Ma non ti uscirà mai dalla testa. Voglio andare a cercare papà. Strinse gli occhi, con un'espressione dura. L'Havana. Quello sì che è un mare dove la gente si perde e sembra che non ci siano delfini per riportarla a riva. E così, giorno dopo giorno, attraversavamo Florida da sud a nord fra i saluti di molta gente, alla quale sembrava molto graziosa la nostra passeggiata con Ciccio al seguito, mezzina fra le mie braccia, e il delfino. E il delfino non sapevo esattamente dove stava, però stava con me. Era uscito dal suo disegno azzurro-viola per entrare dentro di me, così non era più necessario portare il libro da tutte le parti. Giorno dopo giorno attraversavamo Florida da sud a nord, da nord a sud. Il padre Tapanes veniva a prendere il caffè, mi raccontava la metà di una storia, un pezzo più o meno lungo a seconda del pezzo di strada che facevo a piedi. E proprio nel momento in cui il mandorlo che faceva da confine fra il sentiero e la strada aveva maturato tutte, ma proprio tutte le sue foglie ed era tutto, ma proprio tutto rosso, ricomparve papà con un'enorme valigia. «Sono pieno di progetti, Zoila!» Compreremo la bottega di via Santa Isabel, quella di fronte all'albero di Ceiba. Ha la casa sul retro e un grande patio per la bambina e avanzerà abbastanza denaro per una macchina da cucire. Io saltavo dalla contentezza. Mamma no. Con la stessa faccia affaticata che aveva quando finiva di fare il bucato rispose: tutto questo è saltato fuori dalla roulette, vero? Lui pestò i piedi sul pavimento. Ma vedi come sei. Da qualsiasi parte siano saltati fuori. Torno a casa per spendermeli tutti con voi due e tu fai quella faccia da funerale. Lo vedi come sei? Sempre di malumore, sempre aggressiva. Comunque, ci trasferimmo nella bottega di via Santa Isabel, che era per metà di papà e per metà del cinese Xiong, di fronte a una ceiba così alta che arrivava al cielo, con delle radici belle grosse dove si sarebbe potuto giocare. Però non si poteva, perché erano sempre piene di straccetti rossi, di chicchi di grano turco, di galli o di capretti morti. Nel patio c'era abbastanza spazio per la colomba, per il delfino e per me. Troppo spazio adesso che Ciccio non c'era più. Durante il trasloco il gatto si era perduto. Questo era un fatto che non riuscivamo a spiegarci. Ciccio si è offeso. Gli abbiamo parlato tanto del viaggio fino al mare, della barca. Ha creduto che avrebbe visto di nuovo Tarraia e la bottega. Invece non somiglia affatto al mare, anche se ci sono molte sardine in scatola. Ciccio se n'è andato a cercare Tarraia. Piangevo e piangevo in continuazione, nonostante il patio mi piacesse. Senza staccare il piede dal pedale, né togliersi gli occhiali dalla punta del naso dove le scivolavano sempre, mamma mi sgridava. «Cos'hai da piangere? Neanche fosse morto qualcuno. Ciccio se n'è andato di sua volontà, perché non giochi con mezzina?» La colomba mi seguiva per tutto il cortile con la sua unica ala spiegata, come la vela di una barca. Mi accompagnava fino all'estremità della staccionata dove mettevo del cibo per Ciccio, casomai gli venisse voglia di tornare. Ero certa che lui veniva e poi se ne andava di nuovo, perché la mattina nei piatti non restava neppure una briciola di cibo. Ciccio va al mare e poi ritorna. Sì, però non gli piace l'odore d'aglio della bottega, per questo non entra. Di certo ha incontrato Tarraia e vanno in barca a vela, conversando con gli animali del mare. Di Ciccio non si vedeva neanche l'ombra. Ma cominciò a mandare i suoi amici. Presto la staccionata verso il tramonto si riempì di miagolii e i piatti bastavano appena per tanti commensali. Cominciarono le proteste. «Uff, uff, qua non si finisce mai! Dove vanno a finire i piatti in questa casa? Maria, li hai presi tu per giocare?» «Ai, questi gatti, che baccano! Prima venivano per Ciccio, ma adesso? Perché diavolo vengono sulla nostra staccionata?» Una sera, quando ormai non era rimasto un solo piatto nella piattaia, mamma uscì come una freccia verso la staccionata. La sentì gridare: «Ma tu guarda! Roba da matti, è chiaro! Certo che vengono i gatti! Un vero banchetto gli offre la bambina! Non c'è bottega che possa reggere!» Però, per una di quelle sue strane reazioni, sostituì i piatti con scatolette vuote d'acciughe. I gatti continuarono a venire a portare notizie di Ciccio. Me le traduceva il delfino. «Ciccio, insieme a Tarraia, è arrivato fino alla fine del mondo e ci ha trovato l'osteria alla pancia piena, Conecci, scusate, è l'uomo del cavallo, che hanno già imparato il linguaggio dei delfini. E senza i delfini non si può raggiungere la fine del mondo, né trovare la strada del ritorno. La casa era diversa da tutte le case conosciute. Il negozio stava in facciata. Nel locale destinato a negozio, il cinese Xiong aveva un letto duro, dei bauli incredibili e una quantità di cinesi grassi con le gambe incrociate. Di fianco al negozio, sull'altro lato della casa, c'erano la sala e la cucina, e dietro una grande stanza divisa in due da una tenda che aveva messo mamma per ricavare un angolino solo mio. La cosa migliore della casa era il portico che collegava le tre stanze, con tegole rosse incorniciate da un fitto fogliame verde che saliva lungo i pilastri. Il patio era più grande della casa e del negozio insieme. Aveva alcuni filari di lattughe, cipolline e bietole che Xiong coltivava con cura e un gelsomino rampicante frondosissimo che abbracciava tutto il fianco del muro di cinta e quasi nascondeva la porta d'ingresso. Era un gelsomino che il cinese gettava negli intrugli misteriosi chiamati tè. All'inizio a mamma non piacevano molto questi intrugli, però dopo ne apprezzò il sapore e li sostituì al caffè. Il caffè ora lo prendeva solo col latte. Però alberi di tè non ce n'erano, né nel patio, né da nessun'altra parte. Il tè stava in casse e barattoli che Xiong conservava nella sua camera vicino alle pomate, alle mentine, alle boccette con sostanze strane che curavano tutti i mali e che presto furono applicate ai miei catarri, orticarie, morsi di formiche e di api, mal di denti e alle mie cranie di mamma. Nel patio c'erano anche molti alberi, i cui tronchi, alternati con tavole appuntite, formavano la staccionata. A mamma gli alberi piacevano tanto quanto a me. Era come avere un pezzo di bosco nel centro di Florida. In quei giorni mamma sorrideva e mescolato al ticchettio perenne della sua macchina da cucire si alzava nell'aria il suo canterellare. Papà restò con noi per un lungo periodo. Qui la colomba mezzina se la passava meglio, viveva più comodamente. Il cinese Xiong le aveva costruito una casetta sui trampoli con una scaletta. Lei imparò a salire e a scendere, ma Xiong si preoccupava anche della sua felicità. «Una colomba deve vivere in una colombaia e avere un marito. Se una colomba non può volare, deve avere perlomeno dei piccioncini». Mamma non era d'accordo. «Altre colombe! Lei mi vuole complicare la vita, Xiong. Lo sa che si mettono a fare le uova? Cominciano a riprodursi e bisogna costruire una colombaia e mi sporcano tutto il cortile». «E non importa, Zoila. Io aiutare brava bambina. Brava bambina sa occuparsi di animali, bambina sa amare animali, sa amare anche persone». Le sue previsioni si avverarono. Arrivò un colombo. Sai come lo chiameremo, brava bambina? Intelo. Lo chiameremo Intelo. Se l'altra si chiama mezzina, per la lotta, questo che non ha niente di lotto lo chiameremo Intelo. Appena arrivato, Intelo si sistemò da padrone nella casetta di mezzina. Entrava e usciva volando, però l'accompagnava nelle sue passeggiate al mio seguito lungo il cortile. Io ispezionavo tutti i giorni il colombaio in cerca delle uova annunciate da mamma, però non apparvero così in fretta come mi aspettavo. Fino a che un giorno le trovai. E dopo trovai i piccioncini. E dopo ancora molte altre uova e molti altri piccioni. Mamma era allarmata. Oh, vedrai la guerra tra quei gatti e quei colombi se i gatti riescono a entrare. Ma i gatti non entravano. Reclamavano il cibo alla staccionata, salutavano il tramonto con i loro piagonii e quando calava la notte se ne andavano senza fare nessun danno agli uccelli. Senza niente che la minacciasse, la famiglia di mezzina ed intero continuò a crescere. Xiong aumentò i locali della casetta originaria e i nuovi appartamenti si riempivano in fretta. Mentre i colombi si moltiplicavano, gli scaffali del negozio cominciarono a riempirsi di vuoti. Papà ricominciò ad allontanarsi e ogni volta ci metteva un po' di più a ritornare. Il cinese Xiong si occupava di tutto, ma ormai non venivano più tanti camion come all'inizio. «Olghe, non poltale, viveli! Viveli stale finendo e bottega le stale vuota, sfollita di tutto!» Mamma abbassava gli occhi per rispondere. Jorge alla risaia per il raccolto, a vedere se guadagna un po' di soldi per mantenere il negozio. Io ho un po' di risparmi dal cucito, possiamo tirare avanti. Però il negozio somigliava sempre meno a un negozio. Banane, boniati, lattughe e bietole arrivate dall'orto del cinese inondarono gli scaffali. L'unico cinese a Florida che includesse patate, yucche e boniati nelle sue semine. Sulla tavola del portico apparvero certe insalate graziosissime e certe zuppe che non potei mai assaggiare perché erano fatte con i parenti di mezzina ed intero. Così passò molto tempo, a zuppe e insalate, con papà alla risaia e mamma che non si alzava mai dalla macchina da cucire, senza canterellare né sorridere. Papà fece ritorno il mattino che mezzina non mi rispose. Appena alzata, come tutti i giorni, era uscita per vedere la colomba. Con la sua unica ala spiegata, pronta per il volo che non aveva mai spiccato, stava mezzina, rigida, con le zampette in alto. «Andiamo a passeggio, dormigliona!» le dissi prendendola fra le mani. Su, andiamo, non fare la stupida, ripeté impaziente. Non mosse neppure una piumetta. Mi spaventai e uscii di corsa a cercare mamma con Mezzina stretta al petto. Mamma, mamma, Mezzina non vuole svegliarsi. Ormai non si sveglierà più. Era vecchia e malandata. Era uguale a sempre. I singhiozzi non mi lasciarono continuare. Mamma cercava di nascondere le lacrime dichiarando combattiva. Basta con gli animali. Neppure uno ne terremo più. Non posso sopportarlo questo show. Non voglio più un animale in questa casa. Proprio allora, in quel momento, Jorge entrò nel patio. E allora? Cosa sono queste lacrime? Cosa è successo? Jorge, meno male che sei tornato. Ci è mancato poco che ci trasformassimo in cinesi a forza di mangiare verdure. Ed io senza staccarmi neppure un istante dalla macchina da cucire. Io continuavo a piangere. E cosa fa la mia bambina? Non mi saluta? Gli mostrai la colomba. Non fare così, piccolina, mi consolò. Adesso se ne andrà a volare nel cielo. Con gli amici di Tapanes? Può darsi. Guarda, adesso la seppelliamo dall'altro lato del recinto, perché non puzzi. Ma se la sotterriamo non potrà volare. È vero. Allora sai cosa faccio? La lancio lontano. Le do una spinta fortissima per farle prendere il volo. Poggiò il sacco di riso che portava sulle spalle e fece come aveva detto. Io andai in cerca di intero e lo trovai, come sempre. Come se non fosse successo niente. Lui sa che la sua colomba sta volando. Chissà, magari si è trasformata in un gabbiano e vola sopra il mare. Incontrerà Tarraia e i delfini le insegneranno la strada del ritorno. Solo i delfini la conoscono. Anche Ciccio la aiuterà. Tarraia le racconterà le storie dell'osteria alla pancia piena. I buoni amici si incontrano in mare. Però Ciccio non era diventato rigido e con le zampe per aria. Ciccio se n'era andato sulle sue proprie gambe. E mamma non aveva detto che non si sarebbe svegliato più. Mezzina era così rigida e non riusciva a svegliarsi. Se mi addormento e poi non riesco a svegliarmi, siccome non sono una colomba, mi seppelliranno. E non potrò andare né al mare né in cielo. Non voglio addormentarmi, non voglio addormentarmi come Mezzina, non voglio. Cosa fai, cucciolotta, in mezzo al patio? Parli da sola. Vieni a vedere cosa ti ha portato papà. Non volevo vedere nulla. Se ti addormenti, ti porterò al mare prima che ti sotterrino. Chiamerò Tarraia, Ciccio e Mezzina in una grotta, apriremo una nuova osteria alla pancia piena, ti metterai un grembiule azzurro viola, i pesci cattivi li friggeremo per Tarraia, noi altri mangeremo alghe che sono le lattughe del mare. Però ci si può andare senza addormentarsi, vero? E si può ritornare per vedere mamma, no? Io non voglio addormentarmi come Mezzina. Allora, continui a parlare da sola. Non vedo l'ora che cominci ad andare a scuola. Vedremo se ti passa questa fissazione. Mamma e papà stavano parlando sotto il portico. Tra i loro piedi camminava una piccola tartaruga d'acqua dolce. È stato un cattivo raccolto, Zoila. Un cattivo raccolto o un colpo di sfortuna alla bisca della risaia? Se ti dico di no, è stato un cattivo raccolto. Tutto quello che ho guadagnato basta appena per pagare il cinese Xiong. E noi di nuovo a fare fagotto. Bruno adesso ha un chiosco. Lavorerò con lui. E dove andremo ad abitare, Jorge? Ciao a tutti gli abitanti di Storia al Telefono. Oggi siamo al quarto capitolo. Mi sono accorta però che è molto lungo, quindi vi propongo di dividerlo in due parti, così che evito di fare un audio interminabile. E niente, per il resto spero che stiano andando bene per voi questi giorni strani. E adesso però possiamo chiudere gli occhi e per una ventina di minuti ce ne andiamo a Cuba. Vado. Tempo quarto. Da lunedì le ore non passavano mai. Non sapevo come fare a dirlo a mamma. Lei si rendeva conto che c'era qualcosa che mi tormentava e neppure mi decidevo a parlare con Anna Gloria. Enrique era sempre più pungente. Maria Sayas, potresti dire alla compagna capoclasse che ho deciso di trasferirmi nel gruppo di studio di Merceditas? E io ero lì, al fianco di Maria Sayas, a un passo da lui, e per lui come se non esistessi. La cosa peggiore era la sua rinnovata amicizia con Merceditas. Lei gli era sempre stata dietro, da quando erano in quinta. Lui l'aveva sempre trattata come tutti gli altri. però adesso sembrava averle scoperto un qualche fascino nascosto. La portava persino a casa sul sellino della bicicletta. Il colmo poi era che ogni volta che mi trovavo a tiro di voce, lui le faceva mille complimenti. Questa sì che è una donna, non una spiona, come qualcuna che so io. Il fatto è che quando le donne sono carine, non hanno bisogno di fare le preziose o le esemplari. Come ogni volta che mi trovavo in difficoltà, cercavo appoggio nel delfino. Ci capisci qualcosa, mio bel delfino? Dire così di quella smorfiosa che si crede superiore perché il padre lavora nell'amministrazione dello zuccherificio e la madre cuce ancora per la famiglia del tipo che era il padrone della pellicceria Eddie. I figli del pellicciaio le hanno sempre regalato le cose che non usano più e la invitano alle feste di compleanno. E lei si crede superiore per questo. Sta sempre a pettinarsi e a rimirarsi nelle vetrine come se fossero specchi e a parlare di vestiti. Ha ripetuto la quinta perché era ammalata, ha detto la madre, però tutti sanno che aveva paura dell'alfabetizzazione. Carina, sì, però falsa, bugiarda. E Enrique la preferisce a me. Dentro di me il delfino cercava di consolarmi. Merceditas non potrebbe essere amica dei delfini, né di Tarraia, di Ciccio e di Mezzina. Di certo l'odore del mare le dà fastidio. Sembra che neppure Enrique capisca i delfini. Ricordati che non ha voluto essere il capitano della nave su cui andavamo in cerca del mare seguendo il ruscello dello zuccherificio. Probabilmente stava contagiando Enrique. Lei era stata sempre così. Quando noi alunne delle due classi di sesta avevamo deciso di costituire una squadra di pelota e pallavolo per giocare contro i maschi e dimostrare che potevamo essere brave come loro, lei sparlò di tutte noi. Sono cose da gente volgare. Le ragazze raffinate giocano a tennis. E quando Anna Gloria ci riunì per parlarci del viaggio a Magarabomba, subito aveva inventato la scusa del mal di schiena, dicendo che aveva un certificato medico. Poi, quando Enrique aveva alzato la mano per offrirsi di andare, voleva tirarsi indietro. Ma Anna Gloria l'aveva fulminata con lo sguardo. Questa era la mia speranza, poter parlare con Enrique laggiù. E che ci fosse un compito di storia. La prima volta ci eravamo avvicinati per quel motivo. Mamma aveva accettato con piacere che il gruppo si riunisse a casa nostra. Tutto quello che serviva a tenermi vicina le stava bene. Sempre era stato così. Non ci eravamo separate neppure un giorno. Andavamo insieme al cinema, alle feste di compleanno, alla chiusura dell'anno scolastico. Mi teneva d'occhio come si custodisce un tesoro. Era stato Enrique a dirlo per la prima volta e quel soprannome, tesoro, mi era rimasto. Se mi fermavo a scuola un po' più del solito, lei compariva col suo metro da salta al collo e aspettava senza spazientirsi che avessi finito. Nessuno a scuola si meravigliava di vederla, né a me dava fastidio. Solo quando ci fu l'alfabetizzazione, quell'essere gemelle siamesi, come diceva Tita, mi dette fastidio. Per questo il fatto di studiare a casa le piacque molto. Preparava dolci, limonate e non ci interrompeva. Anche a me faceva piacere e fu la prima cosa di me che fece stupire Enrique. «Maestra, mi metta nel gruppo della capoclasse, che è un asso in storia!» Era difficile capirlo. A volte parlava come un adulto e subito dopo faceva cose da bambino dell'asilo. Dietro ogni scherzo che si faceva a scuola c'era il suo zampino. Il banco gli stava stretto, i piedi sporgevano nel corridoio, le spalle superavano la spalliera. Quando cominciammo la sesta e vidi che stava nella mia classe, mi si risvegliarono i vecchi rancori e cercai di girarli alla larga. Mi dava fastidio che tutti smaniassero per la sua compagnia. Persino i più piccoli gli stavano dietro perché gli insegnasse a giocare a pelota o li difendesse dai grandi. In matematica era quello che rispondeva meglio e si vantava di non studiarla. Mi faceva una rabbia. A me fumava il cervello nello sforzo di capirla e niente. Mi consolavo con spagnolo e storia. In queste due materie lui era un disastro. Mi lusingò che volesse studiare con me. Non assistette a tutte le riunioni di studio, però quando veniva la casa mi sembrava più luminosa. Arrivava come un temporale, con lampi e tuoni. Sedeva a cavalcioni di una sedia e per un po' seguiva con molta attenzione. Alla prima occasione cominciava con gli scherzi e le battute. Qualsiasi cosa gli serviva da pretesto, le scarpe di corda dei galiziani, le feste dei negri per l'Epifania, la scala della cospirazione o gli occhiali di Felix Varela. Io perdevo la pazienza, ma il resto del gruppo si divertiva e quando c'era lui nessuno aveva fretta di andarsene. Stavamo studiando le cause della guerra dei 10 anni quando una sera lo sorpresi a guardarmi in un modo che mi fece trasalire. Sentivo la faccia che mi bruciava. Lo stesso calore prodotto dalla fiammella che soffia e soffia sorgeva improvviso dalle braci Mi alzai dalla sedia per prendere un bicchiere d'acqua. Avevo sete. Continuammo a studiare e lui continuava a guardarmi in quel modo, senza quella scintilla beffarda che gli si accendeva negli occhi quando stava meditando qualche burla. Mi costava fatica alzare gli occhi dal libro. Leggendo saltavo le righe e cominciai ad augurarmi che tutti se ne tornassero a casa. Maria Saias se ne rese conto. «Tesoro, è meglio che ce ne andiamo, eh? Sei stanca, non hai più concentrazione. Ci vediamo domani, eh?» Le fui riconoscente. Ma Enrique non si decideva ad alzarsi. All'improvviso sembrava affascinato dalla storia e faceva domande e mi guardava, finché Maria Saias, già sulla porta, non tornò a salvarmi. «Su, Enrique, non vorrai imparare tutto in una sera! Dai, portami a casa con la tua bicicletta!» Non erano arrivati alla strada che io ero scappata a rifugiarmi nel patio. Mi sentivo debole come un agnellino. Ci rimasi fino a che le prime stelle si posarono sull'albero di caoba, brillanti, come gli sguardi di Enrique. Tornai a sentire caldo. Presi l'innaffiatoio e lasciai scorrere il suo rivolo sopra i miei capelli, i miei occhi, e quando l'acqua arrivò alla mia bocca, sorrisi, senza sapere perché. E il giorno dopo in classe Enrique, che entrava sempre per ultimo, arrivò per primo e passandomi al lato mi tirò i capelli e mi strizzò un occhio. Mi tornò la sete. Quella mattina non ci furono lanci di legnetti né aeroplanini di carta che volavano nell'aula e al mio ritorno dalla ricreazione trovai un fiore di mahagua sul mio banco. Enrique assistette puntuale alla riunione del venerdì e si offrì per farmi il ripasso di matematica. Continuarono ad apparire fiori di mahagua sul mio banco e nell'aula si poteva sentir volare una mosca, mentre a me l'allegria sprizzava da tutti i pori e mamma e Maria Saias e persino la maestra Anna Maria continuavano a chiedermi cosa mi fosse successo, come mai avessi quella faccia contenta come una Pasqua. Non ebbi il coraggio di dirlo a nessuno. Solo il delfino conosceva il mio segreto. Ma sarà per me che è cambiato tanto? Sarà per me? E perché sono così contenta se mi ha sempre trattato male da quella volta che non ha voluto essere il nostro capitano? Adesso mi sembra un bravo ragazzo. Mi fa venire voglia di battergli una mano sulla schiena, di invitarlo a fare una corsa. Sono così contenta, come se fossimo arrivati al mare. Se potessi chiedere consiglio a Tarraia. Tornai a cercare il vecchio libro degli abitanti del mare. Volevo tenerlo vicino, sfogliarlo e mettere fra le sue pagine i fiori di mahagua che ogni mattina, da quella vacanza, continuavano ad apparire sul mio banco. La domenica di quella settimana, Enrique apparve di mattina presto al muro di cinta del patio per chiedermi il libro di storia. Il suo lo aveva lasciato a scuola. «Tu non puoi immaginare quanto mi stia piacendo la storia!» Lo disse sorridendo e poi mi fece la proposta di sistemare il patio. Da quel giorno cominciarono le segnalazioni col campanello della bicicletta, messaggi che imparai presto a decifrare. Dall'angolo di via Lugaregno si sentiva «trin trin trin trin» e il suono continuava fino davanti casa mia. «Tesoro, vado di fretta, sto portando il pranzo a mio padre!» Al ritorno il linguaggio del campanello era più lento. «Trin trin trin!» Enrique non aveva premura adesso. Si fermava sulla strada senza scendere dalla bici e io mi affacciavo alla staccionata. Il mio vecchio è furioso. Quasi non ha pranzato. Ci sono stati ancora problemi col bilanciere e si è complicato il turno. Dice che ora c'è molta propaganda politica, però si lavora poco. Ha detto così. Senti, non è che tuo padre sta diventando un gusano, un controrivoluzionario? Tesoro, questo non devi dirlo. Mio padre è il miglior operaio dello zuccherificio Florida. Zuccherificio Argentina, Enrique. Si chiama Argentina ormai da un pezzo. Ma lui, siccome ci lavora da quando si chiamava Florida, quel nome gliel'hanno messo gli americani, così come al paese, per ricordare la loro Florida. Ma guarda, bambina, quanto ne sai di storia, eh? Un asso. L'ho sempre detto. Però il mio vecchio dice che con gli americani lo zuccherificio funzionava meglio. E per forza, lo avevano da più tempo e lo conoscevano meglio, lo avevano fabbricato loro. Mia madre dice che adesso tutti stiamo imparando ad essere persone. Mio padre perde la pazienza perché a lui piace che le cose si facciano bene. Beh, che stia attento a come lo dice, perché così parlano i gusani. Vedi, di te non mi piace questo, che devi sempre spettegolare su tutto. Ma non sono pettegolezzi, Enrique, è la verità. Lo sai che è la gente che non è d'accordo con la rivoluzione a parlare così. Ma mio padre è d'accordo. Il fatto è che a lui piace esigere che le cose siano ben fatte e a qualcun altro questo non piace. Come a me non piacciono le tue chiacchiere in classe. Le donne non devono immischiarsi di tutto. Questo era prima, Enrique. Ma non vedi che ormai giochiamo persino alla pelota? Un'altra delle tue pazzie. Fai tanto la persona seria con le tue prediche e poi tutte le scemenze le vai a inventare tu. La novità del progetto di formare una squadra di pelota con le femmine della classe mise in secondo piano per molti giorni l'argomento dello zuccherificio. L'istruttore doveva essere lui, non c'era scampo. Adesso ogni mezzogiorno e ogni tramonto erano scanditi dai messaggi del campanello. Trin trin trin trin, vado di fretta! Trin trin trin, avvicinati alla staccionata! Mamma si affacciava sospettosa, però non appena conosceva l'argomento della nostra conversazione, tornava alla macchina da cucire. Guarda, Enrique, smettila con questa storia che è una pazzia. Proviamo! Tu ci insegni e vediamo che cosa succede. Non è così semplice, tesoro. Ancora capirai basket e pallavolo, ma pelota! Non è mai successo che le femmine giocassero alla pelota. Non vedo che scienza ci voglia per lanciare la palla, battere e mettersi a correre. Non mi lasciava finire il discorso e se ne andava. Però quando tornava, io ricominciavo a insistere. Su questo argomento ricevetti un valido aiuto da parte di mamma. Il tuo è un vero capriccio, tesoro. Non troverai mai un fidanzato se diventi pelotera. E chi ha voglia di girare da uno stadio all'altro dietro a una donna? E da qui ad avere l'età per fidanzarmi ho tutto il tempo che voglio per imparare a giocare a pelota. A quale tempo? Non sei più una bambina piccola. Hai già 12 anni e fra pochissimo... Mamma lo interruppe. Fra pochissimo un bel niente, giovanotto. Le ragazze per bene non si mettono con un ragazzo prima dei 15 anni. E quelle intelligenti non si fidanzano prima di terminare gli studi. Perciò... smettila di stuzzicare la bambina. Lui rispose come se le parole gli costassero fatica. Mi perdoni, Zoila, io non volevo stuzzicare nessuno. Però lei lo sa che la sua bambina si è messa in testa di diventare pelotera? E cosa ci sarebbe di male? L'unico male per le donne sono gli inganni degli uomini. Al contrario, più imparano, più cose sanno fare e meglio è. Così non saranno costrette a sopportare ogni fregatura. E chi l'avrebbe detto? Beh, se lei è d'accordo, non c'è rimedio. Dovrò dare inizio a questa pazzia. Le demmo inizio e furono giorni interi insieme a Enrique. Giorni di nuove e strane sensazioni prima dell'incidente di Junquera e del ritorno della nostalgia, che dai tempi di Tarraia, all'osteria, alla pancia piena, non era più ricomparsa. Imparare a giocare a pelota... non fu così facile, proprio come aveva pronosticato Enrique. Il colmo era che le altre ragazze che formavano la squadra facevano progressi ed io non c'era verso che guadagnassi neppure un punto. Finivo sempre fuori gioco. Mi resi conto di essere un peso morto per la squadra ed ero disperata. Oh, Delfino, mio bel Delfino, portami a riva che sto annegando, che vergogna! E la cosa che mi fa più male è che sono stata io a inventare tutto. Le altre sono così buone che non mi dicono niente, però la squadra perde sempre per colpa mia. Enrique si sforza, io mi sforzo e nulla. Sembra che non sempre gli sforzi vadano a buon fine, anche se mamma dice che con fatica si arriva fino al cielo. È che non puoi essere la prima in tutto. Zoila te lo dice e tu non l'ascolti. Ti disperi quando le cose non ti vengono bene fin dalla prima volta. E non sarai una buona pelotera, però ti difendi in pallavolo. Se invece di spazientirti e di voler lasciare il gioco stessi attenta a tutto quello che dice Enrique, forse impareresti a battere. E invece te lo stai lì a contemplare come se volessi impararlo a memoria e perdi ogni energia e tutto intorno diventa azzurro viola e non vedi quello che devi vedere. Discutemmo molto, il Delfino ed io. Fino a quando mi decisi. Ragazze, per la pelota io non servo a niente. Ci fu una rumorosa protesta, ma io continuai. È meglio che lasci perdere, così potrete difendervi nel primo incontro con i maschi. Ma come? Vuoi piantarci? Quando ci siamo messe in questa impresa a causa tua? Maria Saias parlò per prima e dopo di lei Enrique. Io posso aiutarti di più. In ogni modo devo sdebitarmi per il ripasso di storia. No, no, ormai ho deciso. Non riesco a battere. Enrique si arrabbiò. Sai cosa ti succede? Il fatto è che tu vuoi sempre essere la prima in tutto. Bisogna vedere quanto ti arrabbi quando prendi un punteggio basso. Ti stai comportando molto male. A te piace molto parlare di esempio. Bene, quello che vuoi fare è un cattivo esempio. E decise, fra gli applausi della squadra, ti farò allenare di più e smettila con le bambinate. Beh, per oggi ci fermiamo qui e niente, ci rivediamo la prossima volta, risentiamo per sapere come andrà l'avventura. di Maria Candela con la pelota. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao a tutti. Riprendiamo allora la seconda parte del capitolo 4, che avevamo diviso in due perché era un po' lungo, e avevamo lasciato Maria Candela alle prese con gli allenamenti di pelota. Cominciamo l'allenamento individuale, io da sola con Enrique, ogni martedì e giovedì. Mamma non era molto convinta. Anna Maria, la maestra, le fornì l'unico argomento valido. Se era una cosa buona per la scuola, allora doveva essere buona anche per lei. Però trovò la soluzione per seguire da vicino gli allenamenti. Si portava il cucito a mano sotto gli alberi di Mahagua che servivano da gratinate per il pubblico. «Guarda, tesoro, tua mamma ci sta alle costole», si lamentò Enrique alla prima seduta. «Lasciala stare, che fastidio ci dà?» Certe volte, in fondo, proprio dentro di me, là dove abitava il delfino della mia infanzia, anche se non osavo confessarmelo, avrei preferito che mamma non fosse lì. E certe altre volte ero contenta della sua presenza. Enrique si distraeva dall'allenamento. Come per caso mi sfiorava una mano o mi stringeva il braccio all'altezza della spalla. E io lo rimproveravo, fino a che un giorno si offese. «Tu non vedi altro che la mazza e la palla!» «Sì, in questo momento è l'unica cosa che mi interessa!» Scagliò lontano la mazza, con furia. «Beh, allora è meglio se continuiamo un altro giorno!» Poi l'espressione di rabbia si trasformò in dispiacere. Senza riflettere mi ritrovai in punta di piedi per raggiungere il suo viso. Gli detti un bacio in fronte e scappai di corsa tra il divertita e lo spaventata. «Vedrai che domani ti sentirai meglio!» Restò a bocca aperta, fermo nel mezzo del campo da gioco. Quando arrivai alla porta di casa mia, stava ancora lì, col tramonto alle spalle in una grande macchia azzurro-viola. Il giorno dopo, mentre inghiottivo l'ultimo sorso di caffè e latte, sentii il suo campanello a un'ora inusuale per il nostro rituale ciclistico. Mi stava aspettando sul marciapiede. Gli brillavano gli occhi, però non so come, quando stava per combinare uno scherzo. Il brillio era più intenso, anche se pieno di allegria. «Monta in bici, che ti porto! Ma se di qui a scuola c'è solo un isolato, e poi mi piace tagliare per il sentiero, fra l'erba! Monta, che il sellino è comodissimo! Smettila! Vuoi che chieda il permesso a Zoila? No!» Attraversai per entrare nel sentiero e lui mi seguì portando a mano la bicicletta. «Ma sei pazzo! Continua per la strada, che mamma non ti veda!» «Mamma, mamma! Ma sai che cosa sei? Una gatta morta! Mi hai baciato, lo sai o no? Ieri sera mi hai baciato e adesso lo vado a dire a Zoila!» Lo disse frenando di colpo la bicicletta sulla gomma di dietro e poi se ne andò di furia verso la scuola. Quella mattina non ci furono fiori di Mahagua sul mio banco. Cercai sotto, sopra, per terra. «Oggi non te l'ha portato, Maria Candela?» Mi girai sorpresa verso Maria Sayas. «Tu lo sapevi?» «Quella che non voleva saperlo eri tu!» Non mi piacque come lo disse. «Che cosa c'è di male, eh? Che cosa c'è di male?» «Niente. Però lui è già un uomo e tua mamma non ti lascerà.» «Ma di cosa stai parlando, Maria Sayas?» «Ah, tesoro, io ho sempre mantenuto i tuoi segreti. Non ho mai raccontato a nessuno la storia del delfino.» Aveva ragione. Era l'unica che non aveva tradito la mia confidenza, né si era fatta gioco della storia del delfino. Lo aveva preso come qualcosa di naturale e anche dopo che il delfino fu passato in clandestinità, per evitarmi i rimproveri di mamma e l'incomprensione degli altri, continuavamo a parlare dell'inquilino della macchia azzurro-viola come di qualcuno che riguardava solo noi due. Però non avevo sentito il bisogno di confidarle la storia di Enrique, perché in realtà non mi era chiaro che cosa stava succedendo. Sentii la mancanza del fiore di Mahagua, che per tutta la mattina non comparve, e del campanello della bici che non squillò a mezzogiorno. Verso sera, senza rendermene conto, andai ad aspettarlo vicino alla staccionata. Quando lo vidi spuntare dall'angolo di via Lugaregno mi scappò un grido: «Enrique, Enrique!» Per la sorpresa suonò il campanello che questa volta dette un unico accordo allegro: «Drin!» Si avvicinò alla staccionata tutto serio. «Perché mi chiami se stamattina non volevi vedermi?» «Non è questo. Non continuiamo con l'allenamento?» «Se tu vuoi.» Non mi piacque il tono. «Non se voglio io, accidenti, sei stato tu a propormelo.» «Bene, d'accordo, domani.» Restai dispiaciuta insieme impaziente che arrivasse l'indomani. Neppure la mattina dopo trovai il fiore di Mahagua sul mio banco. Però all'ora di pranzo il campanello risuonò dietro l'angolo di via Lugaregno. Passando vicino alla staccionata, Enrique gridò senza guardarmi: «Maria Candela, ti aspetto al campo da gioco!» L'allenamento si svolse a distanza. Neppure il minimo sfioramento di mano, né il braccio sopra le mie spalle, né un sorriso, né una strizzata d'occhi. E io facevo l'ignorante. E non ho capito, come si impugna la mazza? E questa mano qui e l'altra là? Adesso ero io che lo toccavo senza cautela, ed era lui che si ritraeva di scatto come se le mie mani lo sporcassero. Mamma si rese conto che l'allenamento non andava avanti. Seduta col suo cucito sotto gli alberi di Mahagua, protestò: «Cosa succede che non sento il rumore della palla?» Reagimmo, ma senza l'entusiasmo dei primi allenamenti. Io non sopportavo la serietà di Enrique, e in uno di quei momenti di pazzia che mi prendevano e dei quali mamma era solita incolpare il delfino, gli presi una mano, la strinsi con forza e gli dissi: «Dai, non essere antipatico, aiutami che dobbiamo vincere questo incontro!» Scosse la testa con aria grave. «Non ti capisco, tesoro.» Il tono era tornato ad essere dolce. «Adesso mi fai le moine come il giorno che mi hai baciato e l'indomani non mi volevi salutare. È che tu sei troppo suscettibile. Forse che me la sono presa per i fiori di Mahagua?» «Se lo dici, sai di cosa stai parlando?» «Certo, sono giorni ormai che non mi lasci neppure un fiorellino.» «Perché non cerchiamo di essere buoni tutti e due, tesoro?» Lo fummo. Tornarono i fiori di Mahagua sul banco, le segnalazioni del campanello al mezzogiorno e al tramonto, le nostre mani cominciarono a capirsi. La squadra maschile faceva pressione perché stabilissimo la data del primo incontro. Conchera, col suo vocione, ci sfidava: «Forza, forza, non siete poi così brave! Dimostratelo sul terreno! E tu, Enrique, smettila di curare l'allenamento di tesoro come se fosse un gallo da combattimento e fissa la data dell'incontro! Conchera, non esagerare. Tu giochi alla pelota da quando sei nato e alle bambine questa pazzia è venuta in mente solo ieri.» Anche Bebo era impaziente. «Il fatto è che Enrique ci ha preso gusto ad allenare tesoro. Loro due soli, anche se la verginella non gli è d'accordo, eh? Ragazzi, non rovinatemi la piazza, guardate che tesoro è pieno di complessi.» «Non si tratta di complessi, Enrique. Mi fa rabbia che questi cretini confondano le cose.» Il pettegolezzo aveva cominciato a girare e minacciava la mia autorità di capoclasse. «È colpa tua, Enrique. Se tu volessi, li faresti smettere all'istante, invece ti diverte il fatto che mi diano fastidio. Tesoro, per certe cose sei bravissima, però hai il difetto di prendere tutto troppo sul serio. Certe volte ragioni come mia nonna.» Avevamo già avuto una disputa per motivi di disciplina. Maria Saias aveva l'abitudine di togliersi i mocassini appena si sedeva nel banco, e una mattina le scarpe erano sparite. Durante l'intervallo Maria Saias non si era potuta alzare dal sedile. Parlai con Enrique. «Prima che nascano problemi, fa saltar fuori le scarpe.» «Tesoro, guarda che io non ne so nulla.» «Se non sei stato tu, certo sai chi è stato.» «Non cominciare col tuo complesso di capoclasse, non cominciare.» «Senti, non ti sembra di essere un po' troppo cresciuto per fare questi scherzi cretini insieme agli altri? Sei il più vecchio di tutti e fai cose da scuola materna.» Alla fine delle lezioni, le scarpe ancora non erano riapparse. Maria Saias era sul punto di scoppiare in lacrime e io di tirare qualcosa in testa a Enrique. Nel frattempo la scuola Sierra Maestra al gran completo aveva intrapreso un'operazione di ricerca che andava dalle piante di Mahagua fino ai bagni. Proprio nel momento in cui Anna Maria stava per assegnare un castigo a tutta la classe, apparve Occhi Belli con in mano i mocassini grondanti d'acqua. Li aveva trovati nella vaschetta di scarico del water, nel bagno dei maschi. Quel giorno non risposi ai richiami del campanello. L'indomani, comunque, era all'ora di andare a scuola, passò come per caso davanti a casa mia. «Maria Candela, non è stato Enrique. Se vuoi denunciami, ma sono stato io.» «Non ha importanza, lui lo sapeva.» «E cosa pretendevi? Che si spaventasse e si mettesse in riga?» «Junquera, non so perché tu abbia fatto questa carognata a Maria Saias, che per non dare fastidio agli altri quasi non parla.» «Guarda che l'ho fatto proprio per questo, per vedere se aveva sangue nelle vene. Se ne sta sempre ferma come una statua e non osa neppure guardare di fianco. E sei riuscito a farla piangere. Le si sono staccate le suole dei mocassini e lei non ha altre scarpe che quelle. Lo sai che di scarpe non se ne trovano più.» «Davvero le si sono staccate le suole? Porca miseria, questa sì che è una brutta notizia. Parlerò con mio padre. Gli restano ancora dei materiali e degli attrezzi di quando era calzolaio. E tu però mettimi una buona parola con Maria Saias.» Dunque si trattava di questo. Guarda che strani erano i maschi. «Ma scusa, ma perché non le parli tu stesso? Maria ha già compiuto i 15 anni.» Non ho la pazienza di Enrique. Cosa vuoi dire con questo, Conchera? Che se io fossi Enrique ti avrei mandato a quel paese già da un pezzo. Enrique non aveva pazienza. Lui aveva già compiuto 17 anni, come Maria Sayas e come lo stesso Conchera aveva incominciato tardi la scuola primaria e l'incidente durante la raccolta del caffè gli aveva fatto perdere altro tempo. Enrique non aveva né pazienza né memoria e mentre io mi disperavo, da quel lunedì in cui Ana Gloria aveva parlato del viaggio a Magarabomba, ostentava la più completa indifferenza nei miei riguardi, suscitando il ritorno della nostalgia. Sembrava che avesse dimenticato, nella sua vendetta, quello che era successo durante il primo incontro di Pelota. Quel pomeriggio di sabato tutta la scuola si era riunita sotto gli alberi di Mahagua. Era venuto persino il corrispondente locale del giornale Avanti. Enrique non giocava perché l'incontro fosse ad armi pari. Prima dell'inizio ci riunì e ci dette le ultime istruzioni. Si mise al mio fianco e all'ultimo momento mi strinse forte una mano. Ricambiai la stretta e uscii a giocare come se fossi Miguel Cuevas. Però capii subito che non bastava invocare il campionissimo di Camagüey. All'ottavo tempo ero riuscita solo a dare un colpetto alla palla che mi aveva permesso di arrivare in prima base. Per fortuna le altre ragazze della squadra si erano battute come leonesse ed eravamo 5-5. Nella parte finale dell'inning mi toccava di nuovo battere di fronte a Bebo, il miglior lanciatore della squadra maschile. Mi misi in posizione. Gambe divaricate, mazza sostenuta fermamente con la destra. La palla schizzò fuori come una colomba liberata all'improvviso, alzai la mazza colpendola, sentii un colpetto secco e cominciai a correre. Miracolo! La palla, come una colomba, continuava a volare alta sopra il campo da gioco. Corsi con tutte le mie forze, seconda base, terza, una spinta ancora sulle gambe. Stavo per arrivare a home quando il piede sinistro mi si impigliò nel laccio sciolto della scarpa da tennis destra. Caddi. Fu grande il dolore, però, col dolore tutto, allungai la mano e toccai il cuscino. Sentii alzarsi un grande clamore sotto gli alberi di Mahagua e poi tutti che correvano verso di me. Enrique fu il primo ad arrivare. Mi prese in braccio come fanno gli sposi novelli nei film. Si diresse di corsa verso l'infermeria dello zuccherificio con me in braccio. Al mio fianco mamma mi consolava. «Non è niente, figlietta, coraggio!» Enrique mi stringeva al petto e ripeteva «Manca poco, tesoro, manca poco!» Non mi accorgevo più del dolore. Lui era lì, così vicino. E quando mi depose sul lettino, parlò sfiorandomi la bocca. Non avere paura. Ti aspettiamo qui fuori, campionessa. Il gioco terminò all'ottavo tempo, però si decise che il mio home run dava la vittoria alla squadra femminile. Il prezzo fu la mia gamba ingessata, ma ero così contenta. Tutti i giorni la classe al completo passava da casa mia. Mi portavano le lezioni che avevano ricopiato per me ed Enrique si fermava tutte le sere fino all'ora di pranzo per portare il pranzo a suo padre insieme a Maria Sayas perché mamma non si sospettisse. Quando gli altri se ne andavano, noi tre ci sedevamo in cortile all'ombra dell'albero di caoba, tra i crisantemi, gli ortaggi, le conchiglie e i fossili di piante marine che Occhi Belli mi portava ogni estate dalle sue vacanze alla spiaggia. Lui dal suo patio e Isela dal suo, che confinavano entrambi con il mio, partecipavano alle chiacchiere fino al tramonto. Discutevamo di tutto, anche se quello che ci preoccupava di più era l'esame di sesta che segnava la fine della scuola primaria. «Che bisogno c'è di un esame finale se ogni anno siamo stati promossi?» si chiedeva Enrique. «È vero», concordava Occhi Belli. «Se avete studiato non dovete temere niente», questa era la mia parola d'ordine. Però anch'io temevo l'esame. Io ho bisogno di finire la scuola una volta per tutte. Mio padre mi ha già procurato un posticino allo zuccherificio e più avanti posso fare un corso tecnico. «E dopo ti sposi, no, Enrique?» «Occhi Belli sembra buono buono, però quando ci si mette», lo sgridava Maria Sayas. Ma Enrique approfittava di ogni occasione offerta dal mio vicino. «Se trovo una fidanzata, mi sposo. E come che mi sposo, Occhi Belli?» E lo diceva guardandomi sfacciatamente. «È un peccato che tu non possa continuare a studiare, Enrique. No, tesoro, a me piace lo zuccherificio. E quel tipo di lavoro non si impara sui libri, ma lavorando in uno stabilimento. Però potresti diventare ingegnere. Sono troppo vecchio per questo. E poi guarda mio padre. Non è ingegnere, però ogni volta che c'è un problema allo zuccherificio tutti cercano lui, persino l'amministratore. D'accordo, l'amministratore non ne sa un accidente né di zuccherifici, né di canne, né di zucchero, però ha combattuto sulla sierra. Sì, tesoro, ma di zuccherifici non ne capisce niente, per questo ci sono tanti problemi con la raccolta della canna. L'amministratore deve solo dirigere il lavoro degli altri, per questo è amministratore. Oh, ecco di nuovo la capoclasse con le sue prediche. Guarda, tesoro, mio padre dice che questo amministratore non è un tipo disonesto. Però è come se fosse ancora la macchia, con ordini a ring e crede di risolvere tutto. Te l'ho detto moltissime volte che tutti stanno imparando, come dice mia madre. Tu non ascolti Fidel, ragazzo. Tesoro, lo ascolto. Però non sono il primo della classe alla scuola di istruzione rivoluzionaria come sei tu. Oh, non prendermi in giro. Mi fa rabbia che tu non capisca. Lo sai che in storia sono un asino. No, guarda, il fatto è che tuo padre aveva un buono stipendio, un lavoro fisso, e ora non guarda più in là dello zuccherificio, come se il resto del mondo non esistesse. Perché è un gran lavoratore, esperto, e lo stipendio di cui parli se lo guadagnava lavorando. Non come adesso, che la gente viene pagata comunque, che lavori o che non lavori. Questo non è vero. Adesso la gente lavora di più, e la raccolta della canna si fa grazie a questo. Guarda come arrivano volontari fin dall'Avana. Se lavorassero di più ci sarebbe da mangiare, vestiti e di tutto. Vai al corso Presidente Gomez. Cosa c'è nelle vetrine? Niente. Cosa c'è nei negozi? Niente. Però tu vai a scuola gratis. E prima, col suo stipendio e tutto, tuo padre non ti poteva mandare alla scuola, che era privata, e hai cominciato la prima dopo che sono scesi i ribelli dalla montagna. Questo è vero. E guarda, a te non è costato niente ingessarti questa gamba. Però anche il resto è vero, lo dice mio padre. Restavo senza argomenti da controbattere. Anche se ero sicura che Enrique, come Jorge, mio padre, non capiva quello che per mamma e per me era chiarissimo, anche se non avremmo saputo spiegarlo. Maria Sayas fu sempre l'arbitro tra noi due. Lo era anche a scuola, perché la sua dolcezza le conferiva un alone di neutralità di cui tutti avevamo fiducia. Nelle discussioni sotto l'albero di caoba faceva da mediatrice. Voi due siete come Jalisco. Ciascuno ha un poco di ragione. E il fatto è che non tenete conto di una cosa che dice sempre mio nonno. Adesso le acque sono ancora sotto sopra. Sono passati solo 6 anni dalla discesa dei ribelli. Piano piano le cose si assesteranno al giusto livello. Ci presi tanto gusto a quelle riunioni nel patio che duravano fino al tramonto che pregavo perché non mi togliessero il gesso alla gamba. Però quando me lo tolsero arrivò una nuova tappa nella catena dell'avvicinamento a Enrique. Quella delle passeggiate in bicicletta. Lui aveva approfittato della mia insicurezza nel riprendere a camminare e si era offerto di portarmi a scuola sulla bici e poi di riportarmi indietro. Mamma non protestò, anche se dovette rendersi conto che ci mettevo di più col nuovo mezzo di trasporto di quando percorrevo a piedi l'isolato che separava casa nostra dalla scuola. Adesso che ripensavo continuamente a tutte le cose che erano successe, mi risultava sempre più incomprensibile la reazione di Enrique al mio comportamento riguardo all'incidente di Junquera. Non poteva aspettarsi che stessi zitta quando il resto della classe era sicuro che sapevo chi era il colpevole. Pensavo e ripensavo a ogni dettaglio mentre il delfino cercava di aiutarmi, incoraggiandomi a parlare con mamma e con Anna Gloria perché il viaggio a Magarabomba avvenisse senza scorta. Dille che la capo accampamento non può andarci accompagnata dalla mamma come se fosse una bambina piccola. La prenderebbero in giro. Dille che non ci andrà nessun parente perché non c'è il mezzo di trasporto per loro, che non può ammettere che a lei si conceda questo privilegio. E se questo non la convince, parla con Anna Gloria e dille le stesse cose. Anna Gloria, tua madre deve ascoltarla, è la direttrice della scuola. Io non voglio offendere mamma. A lei piacerebbe venire, sarebbe così contenta. Però se viene, non riesco a spiegarmi con Enrique e non posso continuare così. O tutto quello che è successo non è vero, o lui è una persona senza sensibilità e in questo caso non devo preoccuparmi, però devo sapere e spiegarmi. Devo sapere se è in grado di capire i delfini. Certe volte si comporta in un modo che piacerebbe a Tarraia, però altre volte... A Tarraia sarebbero piaciute molto quelle passeggiate che Enrique mi faceva fare nel villaggio attorno allo zuccherificio. Certe volte mi sembrava di sentirlo che mi spiegava il significato del libro dei pesci, quando Enrique mi descriveva chi erano stati gli abitanti di quelle case, tutte bianche col tetto rosso raggruppate attorno allo stabilimento dello zuccherificio. Non me l'aveva detto in anticipo. La prima mattina che venne a prendermi in bicicletta arrivò alle 7:15. Mamma si meravigliò. Ti sei alzato presto, Enrique. È che bisognerà andare piano, Soila. La sua figlietta è ingrassata per colpa del gesso. Sedetti sul sellino e non sapevo dove tenermi. Cercando di stare in equilibrio per poco non lo feci cadere. Tesoro, aggrappati a me. Non ho nessuna malattia contagiosa. Seguì il suo suggerimento, ma fummo di nuovo sul punto di cadere quando mi resi conto che oltrepassavamo la scuola senza che lui frenasse. Non ti voglio rapire. Voglio solo farti prendere un po' d'aria dopo tutti questi giorni chiusa in casa. Ti mostrerò il villaggio. Il tono di voce era amichevole, però mi misi in guardia. Lo conosco già. Non come lo conosco io, che quasi ci sono cresciuto. E visto che ti piace tanto la storia, parlava continuando a pedalare. Mi tranquillizzai. Ci stavamo avvicinando al lago dove avrei voluto che Enrique mi accompagnasse quando, in terza, avevo deciso di nominarlo capitano della spedizione alla ricerca del mare. Stavo quasi per ricordarglielo, Però ebbi paura che mi prendesse di nuovo in giro. Dall'ultima casa del villaggio il lago era solo uno specchio lontano. L'abitato era deserto nonostante i suoi proprietari avessero lasciato il villaggio appena avevano nazionalizzato lo zuccherificio. La predilezione di Enrique per quel posto era evidente. Mi piacerebbe viverci. Il lago è più vicino. Dall'emozione quasi mi spaventai e chiesi precipitosamente: «Allora ti piacerebbe essere il capitano di una nave?» «No, non voglio avere niente a che fare con l'acqua, se non per fare il bagno e pescare». Il mio sogno si sgonfiò. Però continuarono le escursioni al villaggio che, percorso in lungo e in largo sulla bicicletta di Enrique, oltre ad essere già di per sé molto grazioso, acquistò un valore particolare. Le gite non le facevamo solo di mattina. Qualche pomeriggio lui chiedeva a mamma il permesso di andarci, in compagnia di Maria Sayas. «Zoila, faccio fare alle bambine un giretto per il villaggio!» Mamma acconsentiva. Così percorremmo tante volte ogni angolino del villaggio. Le sue strade bordate di fiori e di prati verdi, i suoi boschetti di eucalipti, di alberi del pane, di piante aromatiche. Anche la fontana con i pesci rossi e le ninfee, che sempre mi faceva ricordare del cinese Xiong e chiaro, di Tarraia. Tuttavia, non avevo il coraggio di parlare a Enrique dei miei legami con l'acqua, il mare e i delfini. Temevo di essere derisa. Ma in quei giorni Enrique non si fece beffe di me, di niente e di nessuno. Era sempre sollecito, attento a me. E se avessi dato retta alle sue inclinazioni, non avrei mai ricominciato a camminare bene. In quei giorni era un Enrique che in qualche cosa somigliava al mio delfino. Era grande e dolce. E continuò ad esserlo fino al pomeriggio, in cui mi spaventai di nuovo. Eravamo vicino alla vasca dei pesci rossi e delle ninfee, e quella sera Punkera non era venuto con noi, stava chiacchierando con Maria Sayas all'altra estremità del prato, vicino alla caffetteria. «Tesoro, devo parlarti». «E non stiamo parlando. Devo parlarti seriamente, tesoro». Sentii che le guance mi bruciavano, come se stessi soffiando le braci del focolare e sorgesse inaspettatamente una fiammella. C'era qualcosa nella voce di Enrique, nel modo in cui mi stringeva una mano, che mi spaventò. E lo spavento si trasformò all'istante in un grumo gelato alla bocca dello stomaco. «Tesoro, vuoi essere la mia ragazza?» Eccoci qui per i nostri 20 minuti nel Caribe. Tra l'altro, proprio oggi ho sentito la notizia di una delegazione di medici cubani che sta per approdare in Lombardia. O forse è già approdata, sicuramente per quando sentirete l'audio saranno sicuramente già arrivati. E mi sono chiesta se Maria Candela sarebbe stata contenta di saperlo. E secondo me sì. Allora, andiamo avanti. Capitolo quinto, pure questo capitolo è un po' lunghetto, quindi lo dividiamo sempre in due. E questa volta torniamo un po' indietro nel tempo a quando Maria Candela aveva circa 6 anni. E io spero che si capisca anche all'ascolto questo continuo andare avanti e indietro nel tempo di questo romanzo. C'è questa abitudine un po' sudamericana di fare su e giù negli anni della protagonista in maniera non tanto lineare. E qui nel libro di carta c'è la grafica che un po' aiuta, credo, soprattutto i lettori più giovani ad orientarsi in questo via vai. Per esempio, tutti i capitoli in cui Maria Candela è bambina hanno dei caratteri un po' più vintage rispetto a quelli in cui invece è adolescente. Eppure gli anni che io vi dico sempre inizio capitolo, tipo anni 6, anni 5, anni 12, eccetera, in realtà non stanno proprio all'inizio del capitolo. Io lo dico lì per comodità, ma in realtà sono illustrati e si trovano nelle illustrazioni qua e là man mano che si scorrono le pagine. Quindi non c'è proprio un punto preciso in cui si possono mettere, in cui si possono collocare, no? E questo perché anche all'interno di uno stesso arco temporale, di uno stesso flashback, magari si fa avanti e indietro di 1, 2, 3 anni di continuo. Quindi ecco, io li metto lì per dare un'idea, però insomma immaginatevi che è tutto un po' più fluido, ecco. E poi eccoci, volevo anche dire questo, visto che stavo guardando le illustrazioni, che questi numeri illustrati e tutte le illustrazioni di questo libro sono state fatte da Grazia Nidasio e sono molto molto belle. Voi non le potete vedere, però affidatevi, sono veramente belle. E Grazia Nidasio, per chi non la conosce, è stata una illustratrice, fumettista, artista molto brava che ci ha lasciato purtroppo poco più di un anno fa. E mi sembrava giusto a un certo punto nominarla perché i disegni sono talmente tanti, talmente ricchi, che c'è anche lei in questo libro, e pure se non possiamo vedere le sue illustrazioni, però magari anche chi la conosce un po' ce le possiamo immaginare. Vabbè, basta, ho chiacchierato un sacco, direi che adesso andiamo. Tempo quinto. Mamma ormai si era dimenticata di cosa volesse dire sorridere e neppure diceva più «Uff, uff, qua non si finisce mai». Papà si era improvvisato carpentiere e aveva fabbricato una casetta di legno sotto un albero di ateche, con l'unica attrattiva che di fronte viveva un tizio che faceva caramelle di miele e le scambiava con bottiglie. Papà dormiva nella bottega di Bruno, per custodirla, diceva lui, e perché mamma ed io dormissimo comode nell'unico letto della stanza. Il letto matrimoniale e la macchina da cucire erano tutto quello che restava della casa che avevamo nella bottega del cinese Xiong. Però adesso non si udiva più il ticchettio della macchina da cucire e il perché mamma lo spiegava ad Amelia quando andavamo a trovarla all'osteria alla pancia piena, che continuava a esibire il suo cartello appeso anche se non riempiva più la pancia di nessuno. «Zoe, la figlia mia, tu sei una sarta sopraffina. Devi cercare clienti tra la gente danarosa». «Ai, Amelia... Quelli che possono spendere si fanno fare i vestiti a Camagüey o a L'Avana. Tutti gli altri non sono in grado di pagare neppure un centesimo per un vestito. Stai parlando dei morti di fame, figlia mia. Bisogna frequentare la gente danarosa. Preferisco lavare e stirare, piuttosto che sopportare le lamentele di queste signorine maleducate che scelgono i modelli più stravaganti e anche se sono degli spauracchi pretendono che i vestiti le facciano risplendere come le attrici del cinema. Te l'avevo detto di non lasciare perdere il lavoro di lavandaia dal dottor Morejón. Però tu non mi dai mai retta. Come sempre ti sei fidata di Jorge. Guarda, anche se vince il primo premio alla lotteria, non ci si può fidare di lui. È vero che lavora molto, però, cara mia, tutto quello che guadagna dopo lo perde al tavolo da gioco. Amelia ormai aveva perdonato la fuga di Ciccio, considerandola una conseguenza della stregoneria di Tarraia che mi aveva ammaliata con i suoi sortilegi. Poiché a casa c'era poco da fare, mamma, finiti i mestieri, se ne andava ad aiutare Amelia anche per farmi giocare nel patio, pieno di gabbie di conigli. Io arrivavo con in braccio la tartaruga venuta dalla risaia per far arrabbiare Amelia. A questa bambina non le è mai passata la fissazione degli animali acquatici. Ogni volta che entra da quella porta mi sembra che stia per arrivare Tarraia. Non esagerare, Amelia. La tartaruga gliel'ha portata Jorge dalla risaia. Mamma sospirò. Volesse Dio che Tarraia entrasse di nuovo da quella porta. Gesù, sempre l'ho pensato, eh? Che ti sia innamorata un poco di quel tipo? Amelia, ma non dire stupidaggini. Però sarebbe stato un buon compagno per qualsiasi donna. Parlava così bene. Sei proprio un'ingenua, Zoila. D'altra parte, ti sei sposata con Jorge? Jorge all'inizio non era così. Jorge è sempre stato così. Io lo conosco da prima di te. È sempre stato donnaiolo e giocatore. Stai, stai attenta che la bambina ti può sentire. Comunque Jorge parla come le persone normali. Tarraia parlava come i pazzi. E sembra che fosse immischiato in cose di politica. Non ti ho fatto vedere l'ultimo numero di Bohemia? Beh, a me sembra che uno dei morti sia lui. Non dirmi così, Amelia. Amelia corse a cercare la rivista. Mamma gridò ed io corsi da lei sentendo che dentro di me, nel posto dove ospitavo il delfino, l'acqua si agitava e saliva fino a pizzicarmi gli occhi. Anche quelli di mamma erano umidi. Cosa gli è successo a Tarraia, mammina? Cosa gli è successo? Ai, figlia mia, se n'è andato con i delfini. Piangemmo tutte e due. Si è addormentato come mezzina, mamma. Non si sveglierà più. Non riuscivo a immaginarmi Tarraia crivellato dai proiettili come i morti che apparivano su Boemia e che mamma non mi lasciava vedere. Tarraia rigido, con la bocca piena di sangue e gli occhi bianchi. No, figlietta mia, no, se n'è andato con i delfini. L'uomo del giornale non è Tarraia. Se è nel mare nessuno può fargli niente. I delfini avranno cura di lui. Amelia aveva una faccia preoccupata. Zoila, ma cosa fai? Ma neanche fosse un tuo parente. Ai, Amelia, ma a te non dispiace che ammazzino qualcuno? Ma non ti fa rabbia quello che sta facendo Batista? Shh! Zitta, Zoila! Dio ne scampi! A me non piace che ammazzino nessuno, però non mi immischio nella politica. I governi vanno e vengono e noi altri dobbiamo vivere del nostro lavoro. Non mi immischio nella politica, ne ho abbastanza di quello che ho sofferto con Bruno e non voglio ricordarmi del tempo di Machado. Ma bisogna pure che qualcuno cambi le cose. Non saremo noi a farlo, Zoila. Per fortuna questo è un paese tranquillo. Tranquillo, sì, però non perché ci siano minori ingiustizie che in qualunque altro posto. Guarda, Zoila, meglio che ti occupi degli affari tuoi. Va a parlare col dottor Morejon perché vi guarisca, te e tua figlia, dalla pazzia che vi ha contagiato Tarraya. Mamma, che da quando vivevamo vicino alla panetteria e pasticceria La Richard si era dimenticata di che cosa volesse dire sorridere, andò a parlare con Morejon, però non della mia presunta pazzia. Ai, figlia mia, tutti hanno bisogno di un lavoro. Guardi com'è pieno di merci il corso presidente Gomez e tutto che va male perché la gente non ha un centesimo. In casa ho già tutti i domestici di cui c'è bisogno. Quando lei mi ha detto che suo marito apriva un negozio, ne fui contentissimo. Pensai che ormai aveva la vita assicurata. Mamma stava per mettersi a piangere. Su, su, smettiamola con le lamentazioni. Parlerò col dottor Galghera. No, dottore, con Galghera no. È sempre stato il medico della mia famiglia quando non eravamo scesi così in basso. Non voglio affrontare questa vergogna. Lavorare non è una vergogna, figlia mia. D'accordo, però a casa sua non ci voglio lavorare. Questa è vanità, come direbbe padre Tapanes, che di certo ha molto da lamentarsi di lei, Zoila, perché da quando avete traslocato l'ha perduta di vista. Lei non è più tornata a mettere piede in chiesa. E il parroco sa bene che se Dio esiste, non è in chiesa che sta, come diceva mia nonna. Lei sa, Zoila, che Tapanes non è un prete da chiesa. Vada a trovarlo. Vada a fare due chiacchiere. Lui l'apprezza e la rispetta molto. E non si preoccupi, troverò qualcosa perché non moriate di fame. Apparve un altro patio, però completamente diverso da quelli di Morejon e di Amelia. Questo era tutto di cemento, con gli alberi prigionieri dietro grade di ferro e un silenzio che neppure i passeri si azzardavano a turbare. Non potevamo entrare dalla porta principale, ma solo dal corridoio del fondo, ed io dovevo starmene tranquilla e zitta perché il minimo rumore faceva venire l'emicrania alla padrona di casa, che era la persona più simile alla matrigna di Cenerentola che avessi mai conosciuto. A mamma cadevano le lacrime nel mastello mentre si sbrigava a fare tutto il bucato in un solo giorno e a stirare nell'altro per non dover tornare prima della settimana seguente. In confronto a quel mortorio, la vita nella nostra stanzetta improvvisata sotto l'albero di Ateche era una meraviglia. Anche se mamma continuava a non sorridere, neppure piangeva mentre faceva cantare la macchina da cucire col suo ticchettio e univa strisce di stoffa rossa e nera. Però il patio di cemento all'improvviso tornò ad essere animato. Una di quelle mattine di lavoro frenetico apparve una donna vestita con una gonna lunga, guanti e scarpe dello stesso colore violetto del posto dove abitava il mio delfino. «Sono la figlia maggiore di Altagracia e vivo a New York perché qui mi hanno reso la vita insopportabile». Sono venuta a fare due chiacchiere, se me lo permette. Parlava come se fosse superba, però ogni tanto sorrideva. Mamma la guardò a bocca aperta. Beh, questa non è un'abitudine della sua famiglia. Mi scusi se non ho saputo risponderle subito. La donna violetta mi era simpatica. Non sapevo se era per il colore della sua gonna e delle scarpe, o perché dalle sue tasche uscivano caramelle, fermagli per i capelli, nastri, bamboline e con loro certi sorrisi riconoscenti di mamma che dopo, sotto l'albero di Ateche, raccontava a Chico, l'uomo dei dolci e del miele, quanto era simpatica la figlia maggiore della signora Altagracia. Mamma era più contenta ed io più irrequieta. Tra i piccoli frutti della Ateche cominciarono certe scaramucce tra me e il delfino, il quale, a differenza del grillo parlante di Pinocchio, mi incitava continuamente ad avventure che finirono per procurare a mamma un grande spavento. «Dove andrà il sole dopo che diventa rosso e violetto? Farà sempre lo stesso percorso, come se non si dimenticasse mai la strada?» Era una domanda che il delfino ed io ci facevamo da quando avevamo cominciato ad arrampicarci sull'albero di Ateche e da là sopra, proprio in cima, ci eravamo abituati a salutare ogni sera il sole, che dopo essersi bagnato in tutti i colori, spariva dietro lo zuccherificio a Gramonte. Avevamo cercato molte volte di far arrampicare anche la tartaruga lenta, però non c'era stato modo. Appena mettevamo le sue zampette sul tronco dell'albero, lei cadeva pancia in su, e i gatti, che miagolavano continuamente in ricordo di Ciccio, le si avvicinavano con cattive intenzioni, così pensavo io. Mamma si arrabbiava a sentire quel baccano e tornava a imprecare, a promettere che la tartaruga era l'ultimo animale che mi avrebbe permesso di tenere. Era un peccato che la tartaruga lenta non potesse vedere il colore da cui era venuto il delfino. Non potevo trasportarla con le mani, perché entrambe mi servivano per scalare l'albero. E mi misi a pensare cosa si poteva fare perché quell'animaletto silenzioso potesse almeno vedere qualcosa di veramente bello. Fu allora che cominciai a interessarmi dei problemi del volo. Se l'aviatore dell'osteria alla pancia piena fosse apparso di nuovo, tutto sarebbe stato più facile. Avrebbe potuto prendere lenta a bordo dell'aereo e poi gettarmela quando io fossi stata in cima alla teche e tutto sarebbe stato risolto. Però non c'erano né aviatore né aeroplano. Allora pensai a una mongolfiera. Un pallone con un cesto, come quello di Matthias Peres. Preparai tutto. Venne fuori un pallone grandissimo. Come cestino presi quello dei rocchetti di filo di mamma, quattro cordini da lenza e tutto fu pronto. Però non volava. Mamma si teneva la pancia da ridere quando vide quel marchingegno con la tartaruga dentro. Solo a te vengono in mente certe cose, bambina mia, solo a te. Anch'io ridevo a vedere ridere mamma, che da tanto tempo si era dimenticata di cosa volesse dire sorridere. Però non ero affatto contenta di non poter far salire in alto lenta dopo tanti sforzi. Fu mamma a darmi la soluzione. Prendi uno spago lungo lungo, legalo a un cestino, metti lenta nel cestino e lo spago te lo avvolge a un braccio ed è cosa fatta. A meno che non cadiate tutte e due di sotto. Mamma non si opponeva più alle mie scalate sull'albero di Ateche. Per stanchezza. E perché diceva che avevo raggiunto una sufficiente abilità in quello che chiamava il mio complesso da scimmia, così che non c'era da preoccuparsi. Grazie a questa sua fiducia al cestino, lenta poté contemplare dall'alto i tramonti. Fu dopo questa conquista che si presentò la domanda a cui né mamma né papà sapevano rispondere. Dove andrà il sole dopo essere diventato rosso e viola? Sempre lungo lo stesso percorso? Senza sbagliare mai la strada? Incalzati da questa domanda, iniziamo la nostra spedizione verso il sole, il delfino, la tartaruga lenta ed io. Mamma stava friggendo banane mature per il pranzo quando ci mettemmo in cammino. L'odore dolciastro delle banane si allontanava, cancellato da quello più forte dello sciroppo e del succo di canna, mentre lo zuccherificio a Gramonte sembrava ad ogni passo più vicino e il sole più lontano. Cammina, cammina. Ci lasciammo alle spalle il cortile con le locomotrici dello zuccherificio a Gramonte e ci addentrammo in un campo di canne dove il sole scomparve, lasciandomi circondata da ombre terrificanti. Spaventatissima mi misi a piangere, senza badare alla tartaruga, e piansi fino a quando non arrivò mamma con una lanterna e col vicinato quasi al completo. Mamma mi dette quattro sculacciate che troncarono il mio pianto e dettero il via al suo, mentre gridava: «Ma come hai potuto fare una cosa simile? Come hai potuto?» Avevo solo una risposta, che la sgomentò ancora di più. Il delfino. Era l'unica cosa che mi era venuta in mente nel trambusto e nello spavento. Ma tu guarda, se te ne dovevi andare tutta sola fino a qua giù, e di notte, per poco non muoio dalla paura. Ma non lo sai che la polizia ammazza chiunque se ne va in giro? Non lo sai che sono dei selvaggi? Mamma continuava a strepitare infuriata, mentre l'uomo dei dolci di miele cercava di calmarla. Faccia attenzione, Zoila, stia attenta, ci può essere qualcuno che spia in giro. Lei rispose arrabbiata. Mielaio, lei sa bene che sto dicendo la verità. A me lo dice che vado da tutte le parti, però chi glielo fa fare di andare in cerca di guai? Sì, ha ragione. Il fatto è che lo spavento mi ha sciolto la lingua. Tutti dicevano le stesse cose. Attento a come parli era la frase che si sentiva dappertutto. Meno che nel patio cementato con gli alberi prigionieri nelle grate di ferro. Lì la donna dal vestito e dalle scarpe viola parlava fuori dai denti. Questo Batista è un violento e un sanguinario. E gli americani non fiatano. Ci trattano come indios. Guardi, Zoila, io vivo lassù perché nessuno mi dà fastidio. Però non creda che sia tanto facile e bello come nelle pubblicità. Io stessa lavoro come un mulo perché non mi piace chiedere soldi alla mia famiglia. Lei mi deve scusare, ma io non potrei vivere là con tutto quel freddo e quella frenesia. Chissà che un giorno anche noi ci civilizziamo, come dice lei, senza però dover somigliare a loro. E lei? Parteggia per i ribelli, Zoila. Tengono Battista sulle corde. Crede che riusciranno a rovesciarlo. Perlomeno ci stanno provando, Mary. Ed io sono disposta ad aiutarli per quanto posso. Le rinasceva il sorriso quando parlava dei ribelli, anche se era qualcosa che non bisognava nominare. Però, quando confabulava col mielaio, ormai io sapevo qual era l'argomento. Sotto la Tefe, la vita continuava tranquilla. Molto più tranquilla da quando la spedizione verso il sole aveva fornito a mamma la scusa per vietarmi di salire sulla cima dell'albero e da quando non eravamo riuscite a ritrovare la tartaruga lenta nei solchi del campo di canna da zucchero. Allora incominciai a parlare sempre a voce alta con il delfino e mi portarono dal dottor Morejon perché mi visitasse. Non si tratta di pazzia, Zoila, e tutto questo è normale alla sua età. Non ha amici della sua statura e se li inventa. Quando andrà a scuola si sistemerà tutto. Ormai ha l'età per andare a scuola. Il dottore mi sorrise complice e io gli ricambiai il sorriso. A lui non faceva nessun effetto che io avessi dentro di me un delfino giocherellone in un pezzetto di mare azzurro-viola. Mi lasci parlare un momento da solo con la bambina, Zoila. Mamma uscì controvoglia dall'ambulatorio. Allora, vediamo, ragazzina. Com'è questo delfino? È arrivato con un libro che mi regalò Tarraia quando ero piccola piccola e continua a stare in quel libro. Però sta anche dentro di me, anche se non si vede. Mi parla delle cose del mare e giochiamo e un giorno andremo a cercare Tarraia e Ciccio e Mezzina e la tartaruga lenta, che anche lei se n'è andata. Un giorno andremo al mare. Sì, sì, ci andrai, però con tua mamma e tuo papà, non sola, come quella volta che ti sei persa. Anch'io avevo un amico come il tuo. Un delfino? No. Un marziano. Sì, un uomo di un altro pianeta. Quando studierai geografia lo capirai. Anche mia mamma si preoccupava e mi portò tante di quelle volte dai dottori che finii per studiare medicina, anche se avrei dovuto essere scrittore. E il suo amico se n'è andato, dottore? Beh, sì, allora se n'è andato. Però ogni tanto torna a chiacchierare, sai? Nella vita bisogna sempre avere un amico carissimo, qualcuno che non ci abbandoni mai del tutto. Il mio delfino non se ne andrà. Certo. E se se ne andrà, tornerà. Adesso chiama tua mamma. Mamma entrò con una faccia da uff uff, qua non si finisce mai, però non disse nulla. Fu il dottore a parlare. Molta fantasia, Zoila, molta fantasia. È tutto. È arrivato il momento di mandarla a scuola. Ha compiuto 6 anni. Cosa aspettate? Io non so se mamma aspettava quello che successe poco dopo. Però la scuola salvatrice arrivò prestissimo, dopo quel 31 dicembre senza festeggiamenti, in cui dormimmo sotto il letto da tanto che bombardavano. Il giorno dopo ci svegliarono le grida. «Battista se n'è andato! Se n'è andato!» E poi ci fu posto solo per l'allegria, nello stradone. Lì incontrammo il dottor Morejon, il parroco Tapanes, il mielaio, Bruno e persino la stessa Amelia. Io sentivo che anche Tarraia stava partecipando a quella festa. Andremo al mare adesso e Zoila potrà portarci, ora che è contenta, sì, è proprio contenta. Adesso sono tutti cambiati, persino l'impiegato della pellicceria Eddie. Non si ricorda più della bambola adesso. Quel giorno sua figlia cominciò a strillare perché avevo toccato la sua bambola dai capelli lunghi. Lui uscì da dietro il banco gridando, no, che la sporchi, bambina. Sporcarla io, con tutte le volte che mamma mi costringe a farmi il bagno e a lavarmi le mani. Mamma ha litigato con lui per questo. Adesso quando mi vede mi dice bella bambina e mi carezza la testa. Adesso sono tutti cambiati. Piccola, cosa fai? Ti metti di nuovo a parlare da sola? È che il mio delfino, Tarraia e Ciccio e Mezzina e Lenta sono più allegri dell'uomo della pellicceria Eddie. Mamma sorrise, poi disse arrabbiata. Oh, quel volta capana, ora è più baciapile che mai. Lasciammo la casetta sotto l'albero di Atefe e ce ne andammo a vivere in via Luases, vicino allo zuccherificio Florida e anche alla casa del commesso della pellicceria Eddie. Papà fabbricò un chiosco dietro la casa, nonostante le avvertenze di Bruno. Jorge, questo chiosco non ti durerà niente. Qui presto diventerà tutto del governo. Nel frattempo cerco di arrangiarmi, Bruno, fino a che il nuovo governo non si organizza. Il mio problema è lavorare e che la mia famiglia non muoia di fame. In via Luases il tempo non bastava mai. Di mattina a scuola, di pomeriggio al catechismo col parroco vestito come i ribelli, di sera un'altra scuola per diventare rivoluzionari, il sabato al culto degli evangelisti, la domenica ai bembè africani di Oscar. Mamma mi portava dappertutto e pretendeva che mi comportassi bene dappertutto. Però il posto che mi piaceva di più era la scuola, bianca, col tetto di tegole rosse e con un prato immenso di erba ben rasata, come quello della casa dell'americano padrone dello zuccherificio. La direttrice della scuola, Anna Gloria, era la maestra di prima, Emma quella di seconda e di terza. Così diverse solo a guardarle. Ed io, già da quando ero in prima, cominciai a preoccuparmi al pensiero che sarei diventata alunna di Emma. Ok, grazie per aver ascoltato, ci fermiamo qui e vedremo la prossima volta... Cosa nasconde questa cosa? Aspetterà Maria Candela a ritrovarsi alunna della terribile Emma? E come sarà la scuola? E intanto un abbraccio a tutti quelli che ascoltano, a questa bella, questo bel gruppo, e a presto. Ciao a tutti. Continuiamo quel capitolo quinto che avevamo lasciato a metà e... C'era appena da poco stata la rivoluzione, Maria Candela ha cominciato ad andare a scuola e l'avevamo lasciata molto impaurita dal dover in terza elementare diventare alunna di Emma, della maestra Emma. Tempo quinto, anni 7, 8, 9 e poi 10. La signorina Emma. Bisognava chiamarla così perché non si era sposata. Veniva tutti i giorni da Camagüey su un macchinone guidato da un uomo con gli occhiali scuri, del quale le altre maestre parlavano con sospetto. Per questo la chiamavamo la macchinona, e perché era corpulenta con degli occhiali dalle lenti spesse come i fari delle automobili. Non faceva che parlare della morale, e la morale per lei era che le femmine e i maschi non potevano neppure guardarsi. Se José Francisco, cioè Occhi Belli, mi parlava durante l'intervallo, dopo in classe ci faceva sedere lontani. Se Ernesto mi chiedeva la gomma, immediatamente si avvicinava a controllare se c'era dell'altro. Un giorno le dissi a mamma, che mi rispose in modo diverso dalla nostra vicina Tita, la madre di Isela. Tita aveva osservato. È come tutte le smorfiose, solo apparenza. Invece la risposta di mamma era stata «È perché non vuole che vi mettiate sulla cattiva strada». È la maestra e bisogna rispettarla. Il mio delfino la pensava come me. E quando Emma mi metteva in castigo con la faccia al muro perché avevo chiacchierato in classe, mi intratteneva escogitando dei castighi che avremmo dato noi a lei quando fossimo diventati noi, i maestri. È così perché non si è mai rotolata sull'erba con la divisa appena stirata, né si è mai arrampicata su un albero di ateche, né sa come fanno il nido i passeri. Questo è ciò che le faremo. La obbligheremo a rotolarsi sull'erba con i suoi vestiti dalla pettorina di pizzo. Le verrà un accidente. La signorina Emma Gonzalez de Agüeyes a rotolarsi sull'erba. Che orrore! E la faremo arrampicare sull'albero di Guasima con le galline perché le sporchino tutti i sandaletti bianchi. Dal giorno in cui Anna Gloria, la direttrice, disse che non si potevano picchiare i bambini, scomparve il righello della signorina Emma e cominciarono i castighi faccia contro il muro. Lei aveva discusso in tono acceso con Anna Gloria, a voce così alta che la si era udita da fuori l'ufficio. «È un errore di questo governo. Toglie la forza morale alle autorità. Siamo tutti uguali, dicono. Non siamo tutti uguali, e senza disciplina e rigore non si educa nessuno». Anna Gloria era spazientita. «Signorina Emma, pensi a quello che dice. Se lei non è d'accordo con questo governo, non può educare i suoi figli, perché qui il governo siamo tutti e i bambini bisogna convincerli, non picchiarli». Non gliel'hanno insegnato questo nella scuola di suore dove ha studiato? Di ciò adesso e qui non bisogna parlare, perché voi non volete che si nomini Dio in classe. E se non c'è Dio, chi controllerà l'arretratezza e la barbarie? Noi stessi la controlleremo, signorina Emma. E arretratezza e barbarie è picchiare i bambini in classe. La signorina Emma uscì dall'ufficio di Anna Gloria con la faccia come un pomodoro maturo e spezzò il righello contro la cattedra, esclamando minacciosa: «Qua dentro tutti si comportano bene e chi non lo farà sarà castigato come merita!» Quello di mettersi con la faccia al muro era un castigo sopportabile e anche quello di ricopiare infinite volte le parole sbagliate. Ciò che non le ho mai potuto perdonare è la storia della tabellina del 7 quando ormai ero in terza. Alla signorina Emma ho sempre dato la colpa per non aver potuto partecipare alla campagna di alfabetizzazione, nonostante mi avessero spiegato che a 9 anni e in terza non si poteva insegnare a nessuno. Io insistevo che sì, ai vecchietti delle baracche si poteva. Nel frattempo a scuola si facevano i preparativi per la partenza di Enrique, che senza aver finito la scuola primaria aveva fatto in modo che lo lasciassero diventare alfabetizzatore. Il verdetto finale della signorina Emma fu inappellabile. Insegnare agli altri senza conoscere la tabellina del 7 nell'uso dell'H. Così me ne restai a casa a studiare la maledetta tavola pitagorica e l'uso di una lettera che si metteva davanti a certe parole per semplice decorazione, perché era muta. Enrique partì. Già a quell'epoca sembrava un uomo, da tanto che era alto. A scuola sentivano la sua mancanza. Anna Gloria lo ricordava in continuazione. Se ci fosse Enrique saremmo già andati a prendere questi materiali agli uffici dell'educazione. E sì che ne abbiamo tanto bisogno. Lui, come alunno più anziano della scuola e fornito di bicicletta, rientrava in una categoria speciale. Si occupava di tutte le commissioni e quando mancavano le maestre di prima, intratteneva gli alunni più piccoli insegnandogli qualche sport. Pallavolo, corsa, salto. Aveva sempre organizzato le attività sportive della scuola e lo aveva fatto così bene che l'unico campo di pallacanestro per bambini piccoli era nel nostro terreno. Tutti a scuola parlavano di Enrique, lo rimpiangevano e c'era di nuovo quella sensazione di vuoto di quando Tarraia era scomparso dall'osteria alla pancia piena, quella sensazione che Bruno aveva definito come nostalgia. Per me non era lo stesso, anche se sentivo come gli altri la mancanza di Enrique. Già me ne stavo a contemplarlo incantata da molto tempo prima di tutte quelle feste di arrivederci che gli fecero quando partì ad alfabetizzare. Lo guardavo e lo guardavo, ma lui non mi dava mai soddisfazione. Il mio delfino cercò di trovare una soluzione perché la smettesse di ignorarci. Lo invitiamo a venire a passeggio con noi. Con lui potremo andare molto più lontano dei campi di canna, fino al lago. E chiamiamo lo spirito delle pietre, gli chiediamo se da lì si arriva al mare. Magari troviamo una nave. E siccome Enrique è grande e forte, potrà esserne il capitano. Una mattina, durante la ricreazione, avevo chiamato Enrique per fargli quella proposta. «Ascolta, vuoi diventare capitano?» gli chiesi guardando il pavimento. «Capitano di cosa?» rispose senza fermarsi. «Ho un delfino. Vogliamo andare a Ruscello per arrivare al mare. Tu potrai essere il capitano della nave che troveremo.» «Che stupidaggine stai dicendo, piccola? Glielo hai già detto a Zoila che ti porti dallo psichiatra?» Parlò proprio come mamma e mi sentii offesa. Senza sapere cosa rispondergli, ferma in mezzo al corridoio, lo vidi che tirava la cintura di Merceditas, la quale, vedendomi piangere, chiese allarmata: «Che cosa le hai fatto a questa bambina?» Lui allora si girò e mi dette una caramella. «Figurati, ha fatto un sogno ed è venuta a raccontarmelo. Ha un delfino, in una bacinella, suppongo, e vuole che io...» Non ascoltai di più. Il delfino gridava più forte del mio pianto. «Non è come noi! Non è come noi! Getta via quella caramella! Tiragliela in testa! Non capisce! È come i grandi! Tiragli la caramella!» Gliela tirai. Mentre Enrique e Merceditas ridevano ed io mi sentivo ancora più offesa. Dopo quel giorno lui cercò di fare la pace ogni volta che mi vedeva e mi chiedeva con l'aria di una persona grande: «Ci sei già andata al lago col tuo delfino? Lo avete trovato il mare? Non vuoi più che ti accompagni?» Io giravo la testa senza rispondergli. Per noi due, il delfino ed io, Enrique adesso faceva parte della banda della signorina Emma, anche se non potevamo assegnargli gli stessi castighi. Lui, grande e grosso com'era, si rotolava sull'erba con i più piccoli, se li metteva a cavalcioni sulle spalle perché riuscissero a vedere i nidi sui rami degli alberi di limoni e di aranci che fiorivano lungo il muro di cinta della scuola e che la vecchia Florinda curava con tanto affetto. Maria Sayas, maggiore di me di qualche anno, L'unica persona che in piena clandestinità conosceva le escursioni segrete con il delfino, senza mostrare meraviglia, e neppure le sembrava che io fossi ormai troppo cresciuta per andarmene con un delfino alle costole. Quando si accorse di quello che era successo, ripeté il proverbio che aveva sentito dire da sua nonna. La differenza fra femmine e maschi è che nascono entrambi animaletti. Però le femmine si trasformano in persone e gli uomini continuano ad essere degli animali fino alla fine dei loro giorni. Maria Saias viveva in via Lugaregno, a pochi isolati da Enrique, e mi forniva certe informazioni che aggravarono la mia cattiva disposizione verso di lui. Non gli piacciono i delfini, non gli piacciono le passeggiate con i delfini, però studia con la smorfiosa, quella di via Luases, che ogni anno si fa bocciare e ripete la classe. Sapevo che si riferiva a Merceditas, la quale dal giorno in cui mi ero messa a piangere per colpa di Enrique aveva cominciato a trattarmi in modo mellifluo e smanceroso. Per colmo di sventura, dovevo sopportarla nel coro perché sapeva suonare il piano. Questo mi faceva una rabbia tremenda che il delfino cercava di placare. La musica è così bella che anche se Merceditas somiglia alla signorina Emma, il piano vibra dolcemente quando lei lo suona. E la canzone è così graziosa. No te acuerdas, gentil baianesa, que tu fuiste mi sol resurgente. No? Il mio delfino in certi momenti diventava giudizioso. E se mamma avesse saputo che era grazie al delfino che rimanevo nel coro, avrebbe migliorato la sua opinione su di lui. Però, dal giorno della spedizione verso il sole, io avevo deciso di non menzionarlo più per evitare le prediche e le minacce di portarmi dallo psichiatra, medico che già esisteva come specialista nell'ospedale di Camagüey. Inoltre, da quando avevo compilato il modulo per diventare pioniera, persino il più piccolo sbaglio mi veniva rinfacciato come un grave difetto. Per questo avevo accettato di entrare nel coro e che la maestra mi ricordasse costantemente le contraddizioni del mio nome. Maria Candela Frias, stai correndo troppo avanti. Maria Candela Frias, sei rimasta indietro. Maria Candela Frias, stai stonando. Evidentemente non sarei diventata una cantante, nonostante la musica mi piacesse molto. Mi costava un'enorme fatica ricordare le note. Per questo il giorno che imparai la mia prima canzoncina insieme ai maschi, arrivai a casa contentissima di dimostrare i miei progressi. I fratelli Pinson eran due navigatori, con Cristoforo Colon navigavan dentro e fuori. La scenata che fece mamma fu di quelle che si vedono al cinema. E così non riesci a imparare le canzoni del coro e te ne torni a casa con queste porcherie? Che non ti senta mai più cantare queste parole? È una vergogna! Se ti sente la maestra Emma ti castigherà severamente. Questa canzone è piena di cose bruttissime che tu non capisci. È chiaro che non capivo cosa ci fosse di brutto in una canzone che su Colombo e Pinson diceva le stesse cose del libro di storia. E da quel momento in poi, quando la signorina Emma mi mandava in castigo, mi divertivo a cantare quella canzone in silenzio, con sua gran meraviglia. Non riusciva a capire come mai accogliessi la punizione tanto di buon grado. Già mi stavo dimenticando del mio rancore verso Enrique quando cominciarono ad arrivare sue notizie. Le sue lettere parlavano di montagne altissime, dalle quali le pianure di Camagüey sembravano dei buchi senza grazia. Parlavano di inseguimenti di cinghiali e di branchi di muli con bardature ornamentali e campanelli. La sierra era una vera foresta, come quella di Robin Hood. Verde vivo da vicino, grigio azzurra da lontano, attraversata da ruscelli con acque più fresche di quelle dei ghiacciai. Morivo di invidia quando leggevo quei messaggi di Enrique nella riunione civica del sabato. E la mia rabbia contro quelli che mi avevano impedito i miei progetti di alfabetizzazione cresceva. In mezzo a questi miei cambiamenti d'umore, papà decise di fare una permuta con la casa del cinese P, all'angolo tra le vie Lugaregno e Agramonte, di fronte alle baracche dei lavoratori dello zuccherificio. La nuova casa era vicinissima alla scuola, che in mezzo al prato sembrava un airone con un fazzoletto rosso in testa. Il vapore dolciastro della melassa entrava e usciva da porte e finestre, e il muro di cinta era l'ideale per sistemare i miei gatti, che puntuali, non appena si avvicinava il tramonto, intonavano il loro famelico concerto, con grande disperazione di mamma. In vita mia non ho mai visto una cosa simile. Come è possibile che questi gatti scoprano sempre il posto dove ci trasferiamo? Uff, qua non si finisce mai. È da un quartiere all'altro che si avvisano, mamma. È così, lo sai che i gatti si trasmettono le buone notizie. José Francisco e Isela, le cui case confinavano con la mia, mi aiutavano a raccogliere gli avanzi del quartiere per non privare i gatti amici di Ciccio dei loro pasti, nonostante il parere contrario di Pipia e Tita. Quando i miei amici chiesero loro riparo perché i gatti non patissero il freddo, le due vicine dichiararono lo sciopero. Andarono a lamentarsi con mamma e ci fu un'esplosione a lunga gettata. È proprio vero che hai qualcosa che non ti funziona bene nel cervello, Maria. C'è a malapena da mangiare e da vestire per le persone e tu vuoi mantenere i gatti come altrettanti re. Ma cosa ti frulla nella testa? Basta, è finita. Non voglio più vedere un solo gatto nei dintorni. Prima il delfino che ti ha lasciato Tarraia e adesso i gatti. Basta, niente più cibo per i gatti e niente gatti, neppure uno. I gatti si ribellarono. Venivano puntuali come sempre al tramonto e cominciavano a miagolare. Mamma mi proibì di uscire nel patio. Loro continuavano a miagolare sin quasi a mezzanotte, senza lasciar dormire nessuno nel vicinato. Sotto la pressione dei vicini bisognò scendere a patti e dargli da mangiare, con lo svantaggio che ci presero gusto a dare concerti prolungati. Da quel giorno, dopo mangiato, continuava la serenata a pancia piena ed io dovevo supplicarli in nome di Ciccio perché se ne andassero. Come mi ricordavo di Tarraia, di Ciccio, di Mezzina e di Lenta in quei giorni. Neppure a lezione di musica riuscivo a dimenticarli un momento. E una sera, in cui si rifiutavano di abbandonare la mia testa, arrivò la notizia. Enrique era grave all'ospedale di Bayamo. Era caduto da una roccia altissima e non aveva un solo osso intero. La madre venne piangendo a parlare con Anna Gloria e insieme andarono allo zuccherificio a dirlo al padre. Al ritorno si parlò di prendere il primo treno che sarebbe passato. Io pensai che tutto solo in quell'ospedale Enrique avrebbe potuto addormentarsi come Mezzina. Maria Sayas, che conosceva i miei amici di un tempo, indovinò i miei pensieri e frenò le mie lacrime. Non è in pericolo di vita. Ma poi, scusa, non ti era antipatico? Sì. Non gli avevo perdonato i suoi scherzi. Però neppure riuscivo a pensare a lui senza un certo strano piacere che andò sfumando, come il rancore, nel lungo tempo che passò prima che vedessimo di nuovo Enrique. Restò all'ospedale di Bayamo moltissimi mesi. Poi lo portarono alla Habana e persino in Germania lo portarono, come l'eroe di Playa Chiron, per ottenere che tutte le sue ossa tornassero al loro posto. In casa la vita si concentrava nel patio e nel rimpianto del mare, che ormai sapevo com'era perché lo avevo visto al cinema. Le immagini di quel film mi spinsero a obbligare papà, ora amministratore di un deposito statale di generi alimentari, a dipingere d'azzurro il nostro muro di cinta. E cominciai a sferruzzare calze come quasi tutti, perché le calze erano completamente scomparse dai negozi, che ormai non avevano più niente nelle vetrine, e in compenso avevano davanti alla porta interminabili code di gente nella speranza che arrivasse un qualsiasi prodotto. Tutti i libri che parlavano di mare, di avventure di corsari e pirati, tutte le storie di naviganti passarono sotto i miei occhi e per il mio patio, senza arrivare né a mettere in secondo piano i racconti di Tarraia, né a fornirmi argomenti sufficienti per convincere mamma a non rimandare più il benedetto viaggio a Playa Florida. Bambina, in vacanza alla spiaggia vanno quelli che hanno possibilità economiche. In questa casa non entra altro che il salario di tuo padre e quello che riesco a tirare fuori cucendo. Accontentati del fiume e la stusa se delle gite a casa dello zio Armando. Io però non mi accontentavo e il desiderio di vedere il mare mi ispirò dei versi che scrissi per il delfino. Delfin che passeggi tra le onde e le stelle, ti regalerò tutte le caramelle. Ti darò una pignatta di panna montata in mezzo agli ortaggi del cinese lì, purché tu mi aiuti a uscire da qui. E tra i versi, l'impazienza e la crescita inusitata del mio corpo, arrivarono le vacanze che preludevano alla sesta e la notizia che Enrique sarebbe tornato a scuola a finire la primaria. Tempo sesto. Anni 12. Era arrivato il giovedì di quella settimana in cui, al lunedì, Anna Gloria ci aveva parlato chiedendoci di essere generosi come i volontari che venivano a fare il raccolto della canna da zucchero. 4 giorni, durante i quali avevo pensato e ripensato a tutto quello che era successo quell'anno con Enrique fin dal primo giorno di scuola, quando lui era entrato in classe dandosi aria di adulto e senza nessun particolare nel suo aspetto che ricordasse l'incidente e i 2 anni di riabilitazione. 4 giorni nei quali arrivai quasi a rompermi la testa nel tentativo di spiegarmi come Enrique avesse potuto restarsene zitto la settimana prima, pur essendo il responsabile dello scherzo che era costato 6 punti nella testa di Junquera. Era stato il suo silenzio a costringermi a parlare, a dire che il colpevole era lui e nessun altro. Risultato? Non gli era successo niente, solo una sgridata, perché Junquera si era rifiutato a qualsiasi altra rappresaglia. «È stato solo uno scherzo finito male», ripeteva Junquera. Chiaro, nessuno la pensava diversamente. Enrique aveva sistemato la scopa tra la finestra e la porta del bagno dei maschi e sopra il manico, appoggiato contro il muro, il secchio da lavare in terra, pieno d'acqua per fare la doccia al primo che fosse passato. Il primo a passare fu Junquera, ma fu così sfortunato che il secchio gli cadde di spigolo sulla testa e gli fece un taglio. Crollò a terra svenuto. Ci fu un gran trambusto. Mentre Junquera arrivava all'ospedale, Ana Gloria entrò nella nostra aula, che era la più vicina al bagno, per cominciare le indagini sopra l'incidente. Nessuno sapeva niente. Tutti stavano zitti, però guardavano spaventati verso di me. Io guardavo Enrique e lui faceva finta di non vedermi. Lo stesso atteggiamento che durava da 2 settimane, da quando avevo lasciato senza risposta quella sua domanda: «Vuoi essere la mia ragazza, tesoro?» Da quel giorno avevo cominciato a evitarlo. E lui era tornato ad essere il buffone della classe. Sul mio banco avevano cominciato ad apparire rane, lucertole e puntine da disegno che sostituivano i fiori di mahagua di un tempo. Era un modo di darmi fastidio che Junquera chiamava tenere sotto pressione e che a malapena riuscivo a sopportare. Ero arrivata al punto di chiedergli una tregua quando ci fu l'incidente di Junquera e allora non ci fu più modo di dialogare. Ana Gloria minacciò di mandare a chiamare i genitori di tutti gli alunni per avvertirli che non ci avrebbe permesso di fare l'esame. La possibilità di questo castigo ingiusto e immeritato, che avrebbe colpito tutta la classe, mi dette il coraggio di parlare, oltre al fatto che ero indignata perché Enrique non confessava. «Non c'è bisogno di chiamare nessuno, direttrice. È stato Enrique». Ad Ana Maria, la maestra, per poco non schizzarono gli occhi fuori dalle orbite, però non disse nulla. Uscì con Ana Gloria ed Enrique e andarono in direzione mentre noi altri restavamo nel più completo silenzio. Maria Sayas, come sempre, cercò di consolarmi. «Hai fatto quello che dovevi fare. Se non lo avessi fatto, nessuno in classe ti avrebbe più rispettato. Ma come ha potuto restarsene zitto? Non è Tarraia, tesoro». Maria Sayas conosceva i miei codici. Dopo quel giorno, Enrique rinforzò i suoi attacchi e la sua indifferenza. E la settimana dopo Ana Gloria ci propose il viaggio a Magarabomba. Era ormai così vicino che mi decisi a parlare con mamma. «Domani parto con la scuola. Vado a raccogliere cotone a Magarabomba». «Ah, è questo il motivo per cui eri così strana tutti questi giorni? Vorrei dire, andiamo». «No, mammina. Mi hanno nominata a capo dell'accampamento e non credo che ci sia bisogno della tua presenza». Restò perplessa. «Non mi rigirare le cose. Cosa c'è di male se vengo? Che tutti quanti rideranno di me?» Sorrise, un po' triste. «Il piccioncino si sta trasformando in una colomba». Il venerdì mamma mi salutò con una faccia strana, come se stesse per sbottare. «Uff, uff, qua non si finisce mai». Prima aveva parlato con Ana Gloria e la conversazione l'aveva tranquillizzata. Di fianco alla corriera c'erano anche Pipia, che dava le ultime raccomandazioni a occhi belli, e Tita, che insisteva con Isela perché si portasse dietro una cesta piena di budini, flan, barattoli di latte condensato e non so quante altre cose, perché la figlia non interrompesse il programma di ingrassamento. Persino Junquera, con la sua testa bendata, era con noi sull'autobus, ed Enrique seduto di fianco a Maria Sayas. Quando salì, fece per cambiare posto. Però prima che si alzasse disse a Maria Sayas: «Cedimi il posto, per favore. Devo parlare con Enrique». «Guarda, guarda, il piccioncino non è ancora uscito di gabbia che già vuole volare. Non scherzare con le cose serie, Enrique. Dai, siediti. Non siamo ancora arrivati all'accampamento e già ti metti a dare ordini. Allora non vuoi parlare?» «Sì, però non della storia di Junquera. Quella è stata una cavolata, lo ammetto, ma non voglio parlarne più». «Ti stai comportando molto male. La colpa è tua. Hai accettato i bigliettini, i fiori, il bacio nell'infermeria? e dopo mi hai mollato, tesoro. Disse tesoro in un modo che mi fece arrossire. Ma guarda quanto sei stupido. Cosa dovrei fare? Se mamma se ne accorge, allora sì che si metterà a fare il poliziotto giorno e notte. Non hai nessun bisogno di dirglielo. Nessuna ragazza lo dice alla mamma. Non si capisce perché tu devi essere diversa dalle altre. Non capisci, è lei che è diversa. Più buona del pane, però su questi argomenti è irremovibile. E adesso? Come l'hai convinta a lasciarti venire? Non sospetta di nulla. Ho parlato con Anna Gloria e poi viene con noi la maestra Anna Maria. Sai che sono grandi amiche. Però se solo fiutasse quello che sta succedendo, l'avremmo subito alle costole. Questo non è un problema. Vado a parlarle, ci fidanziamo ufficialmente ed è tutto risolto. Ma non capisci che non accetterà mai? E cosa vuole, che aspetti 10 anni? 10 anni no, però che io ne compia 15. Ne mancano ancora 3. E nel frattempo che cosa faccio, eh? Ti guardo da lontano. Si stava già arrabbiando, spazientito. Questo no, nel frattempo impariamo a conoscerci. Mamma dice che bisogna conoscersi bene per non pentirsi dopo. Ma guarda quanto sei complicata. Con tante ragazze senza problemi che ci sono al mondo, dovevo venire a impengolarmi proprio con te. Ragazze senza problemi come Merceditas, no? Si alzò di scatto senza rispondermi. Aspetta, che non ho finito. Pensi di continuare a comportarti come un bambino dell'asilo? Guarda che non sono disposta a sopportare più le tue cretinate. Vedi come sei? Mi offendi? Mi svergogni davanti a tutta la classe e vuoi ancora discuterne? C'è da non guardarti più in faccia. E perché, dimmi? Non è forse vero che passi le giornate a gingillarti nell'aula come se fossi un bambino di prima? Se agli altri dico quello che penso, perché non lo dovrei dire a te? Sono tutti i miei compagni. Non ti vergognavi al pensiero che ci avrebbero puniti tutti per colpa tua? Porca miseria! Ma tu sei quasi la mia fidanzata, come hai potuto denunciarmi? E allora? Tu sei quasi il mio fidanzato e ti comporti male quando dovresti essere il primo della classe! Gli si accese la scintilla beffarda negli occhi. Vedi? Con Merceditas non mi tocca fare conversazioni così noiose. Lei si mette i vestiti che sa che mi piacciono, fa quello che voglio e non parla come se fosse mia nonna. Sentii il sangue che mi ribolliva nelle vene. Mi alzai bruscamente e andai a sedermi di fianco a Maria Sayas. Enrique si girò verso di lei. Guarda se riesci a convincerla, mulatta, altrimenti resterà zitella. E se ne andò sparato verso il fondo dell'autobus, da dove subito si levò un gran baccano. Ai Maria, perché sarà così? Guarda tesoro, non è un cattivo ragazzo. Il fatto è che siete troppo diversi, non potete legare. Non te l'ho mai detto prima perché non me l'hai mai chiesto. L'autobus aveva già lasciato la strada principale e avevamo superato l'incrocio di Cespedes. Mentre parlavo con Enrique non mi ero resa conto della strada. Il paesaggio era sempre lo stesso, pianure di qui, pianure di là. Qualche albero solitario, molte vacche, e in lontananza l'azzurro e il verde uniti, come in un abbraccio. Sospirai. Ad ogni modo, Maria Sayas, dobbiamo essere contente. Finalmente andiamo a fare qualcosa di importante. Alle 11 arrivammo all'accampamento. Mentre pranzavamo, Anna Gloria, la direttrice, ci parlò. Quando sarete uomini e donne, vi ricorderete di questo giorno. Sarà il primo giorno nel quale avete fatto qualcosa per il bene degli altri. Non c'è niente nella vita che dia più soddisfazione. Approfittatene perché il ricordo sia più bello nel futuro. Il sole sembrava un'arancia ardente in mezzo al cielo quando cominciammo la giornata di lavoro. C'erano arbusti di cotone a perdita d'occhio e tutto quel cotone dovevamo raccoglierlo nel fine settimana. Tra le macchie bianche del cotone si muovevano i fazzoletti multicolori, i cappelli e i berretti. Solo questo si vedeva al di sopra dei cespugli. Questo e l'ampia schiena di Enrique, circondata da ragazze più numerose delle piante di cotone. Lavorando cantava e scherzava, lasciandosi dietro gli altri. Io ero stanca morta, ma non mi lamentavo. Pensavo con tristezza alla riunione serale. Io ero fatta per la poesia, però bisognava faticare. Quando il sole fu prossimo al tramonto, colpirono un bidone come un gong per annunciare che la giornata di lavoro era finita. Avevo mal di testa e senza rendermene conto restai indietro, mentre gli altri correvano e si disputavano i turni del bagno. Sentivo la mancanza di mamma. Chissà, forse Enrique aveva ragione. E in quel momento Enrique, proprio lui, emerse dai cespugli di cotone. «Sei mezza morta!» «Chiaro, e come puoi non esserlo se non ti sei fermata neppure per fare merenda? Perché ti vuoi distinguere sempre dagli altri?» Non avevo fame, perché dovevo perdere tempo? Siediti un momento, c'è ancora luce. Lo sai che devo essere all'accampamento per la riunione della sera. Mi si avvicinò e mi mise un braccio attorno alle spalle. Lo vedi? Che non hai tempo per me? Parli sempre come se facessi qualcosa di male e non faccio altro che il mio dovere. D'accordo, non litighiamo di nuovo. Voglio dirti una cosa. Forse è la soluzione giusta. Appena finisco la primaria, comincio a lavorare nello zuccherificio. Tu scegli un corso di meccanografia e puoi lavorare negli uffici. A quel punto possiamo parlare con Zoila e ci sposiamo. A 13 anni? E perché no? Mia nonna si è sposata a 12, ha avuto 10 figli e guardala, è ancora qui. Ma perché non possiamo continuare a studiare tutti e due? E perché non ci possiamo sposare? Io ho già bisogno di una moglie. Invece io voglio studiare. Non voglio vivere come mia madre, voglio studiare le cose del mare. Non fare la difficile, tesoro, porca miseria. Mi aveva obbligato a fermarmi. Le sue mani stringevano le mie spalle come due artigli. Mi guardava in modo diverso dalle altre volte. Gli brillavano gli occhi, ma erano rossi come due braci sul punto di consumarsi. Abbassò le mani attorno alla mia vita e mi strinse contro di sé. La sua voce era un'altra, rauca. Usciva calda dalla gola. Spaventata mi sciolsi dall'abbraccio e cominciai a correre verso le tende. Mi doleva tutto dentro la pancia, come quel giorno del primo dolore di essere donna. Preparai la biancheria per il bagno a velocità supersonica e anche se avrei voluto scaldare il bidoncino dell'acqua in cucina, me lo gettai addosso così com'era, cercando di spegnere quel calore nuovo. Non mangiai. Nella riunione della sera mi sbagliai più di una volta, uscii prima che terminasse. Enrique mi stava aspettando fuori. Cominciamo a camminare in direzione del falò nel centro del patio. Ti sei offesa? No. Hai avuto paura? Sì. Perché? Non lo so. Penserai a quello che ti ho detto. Lasciami, lasciami, Enrique, dissi singhiozzando. Non piangere, stupidina. Quello che voglio è sposarmi con te, non voglio farti niente di male. Le lacrime continuavano a scorrere. Tirò fuori un fazzoletto e mi soffiò il naso. Va bene, tesoro. Adesso sei tu quella che sembra una bambinetta di prima. Però non offenderti se mi vedi con un'altra. Noi uomini non possiamo aspettare a bocca asciutta. Il giorno dopo, con la stanchezza accumulata, il lavoro risultò più faticoso. Mi sentivo triste e allegra allo stesso tempo. Pensai spesso al delfino, senza riuscire a stabilire il contatto con lui. Che gli si fosse indebolito quell'udito così sensibile, pensavo, mentre sorridevo per il mio dolce inganno. Qualcosa dentro di me mi diceva che ormai il delfino non poteva più continuare a darmi consigli, che entrambi dovevamo imparare quello che Enrique sapeva già. Lui, Enrique, lavorò tutto il tempo al mio fianco, tanto tenero e sollecito che mi ricordò quell'antica espressione di mamma: il delfino è un grande e dolce animale. Il campo, che al venerdì sembrava coperto di neve, la domenica non aveva più una sola macchia bianca. Il dirigente dell'agricoltura di Magrabomba, al momento di salutarci, si congratulò con noi e disse che come premio avrebbe invitato la scuola, uno dei prossimi fine settimana, a visitare i luoghi dove avevano vissuto gli indios di quelle parti, dove si trovavano ancora pezzetti di vasellame e persino un antichissimo cimitero. I ragazzi batterono le mani e gridarono evviva. Mi rallegrai. Questa volta mamma sarebbe potuta venire. Avevo paura. Non sapevo esattamente di cosa, però avevo paura. Nel viaggio di ritorno, Enrique sedette al mio fianco. Io dormi per tutto il tempo e non mi svegliai fino a che un suo bacio mi fece drizzare i capelli. Il suo primo bacio. Mi sussurrò all'orecchio. A domani, tesoro. Mamma, Pipì e Tita ci aspettavano sulla porta della scuola. Occhibelli e Isela scesero dall'autobus battendo le mani come se tornassero da una festa. Mamma si meravigliò della mia espressione. Cosa succede alla mia bambina? Hai la testa piena di mare. Occhibelli intervenne. Deve essere contenta, Zoila. Sua figlia è quella che ha raccolto più cotone di tutti. Lei sa che non si lascia superare da nessuno. Sono stanca, mammina, però è andato tutto molto bene. Il lunedì, Enrique portò Mercedes a scuola sulla sua bicicletta.